Allora, bene, iniziamo e faccio un'introduzione molto breve, anche perché non c'è moltissimo da dire, lascerei subito la parola a Lucia e a chi vorrà intervenire. Abbiamo una serie di collettivi, di individui, di persone che interverranno questa sera. Chiaramente abbiamo, come avete probabilmente letto dalla descrizione sull'evento Facebook, si tratta di una serie di interventi che vorrebbero essere il più liberi possibile, con la possibilità di intervenire per 7 minuti. Chiaramente, se poi ci sarà qualche sforo, soprattutto per appunto le persone che abbiamo invitato a intervenire, potranno sforare tranquillamente. Niente, allora, io, Carolina, Roberto e Clara, che adesso non c'è, abbiamo pensato di organizzare questo incontro perché, avendo letto il libro di Lucia, che sappiamo essere stato presentato in una serie di posti, appunto di spazi sociali, di spazi ibridi, come abbiamo scritto sull'evento. E, niente, avendolo letto, io parto poi dalla mia impressione personale, mi ha proprio colpito, perché vabbè, io poi da un po' di anni mancavo a Milano, proprio da maggio 2015, oltretutto da quell'anno lì. E essendo tornato da poco, da un anno e mezzo, ho visto proprio questi cambiamenti di cui parli tu, me li sono visti nella quotidianità, ecco. Poi bazzicando insomma la zona di Porta Venezia, ecco, lì è una zona dove proprio questi cambiamenti si vedono perfettamente, ecco, e che tu citi oltretutto ampiamente nel tuo libro. Niente, abbiamo pensato di cominciare da questa questione della comunicazione come totalità. Stasera parleremo di questo. E abbiamo in programma, adesso poi vediamo come va questa sera, però perché non dovrebbe andare bene. Ci sono altri 3 eventi in programma, tre insomma, incontri di questo tipo. La questione del lavoro, creatività, operatori creativi, eccetera. Però mettiamo sotto il cappello del lavoro, poi questione, caro, aiutami, territorio e spazio pubblico, salute, territorio, abitare, e l'ultima, già detto, disastri ambientali. Comunque, allora, vi invito a chiunque interverrà di presentarsi. Io sono Vittorio, magari dire 2 parole... anche sul proprio, non so, su quello che fa, insomma, se volete, chiaramente. E niente, ci saranno questi incontri su Milano. Perché? Perché l'idea, poi quello che ci ha spinto, che poi anche parlo molto personalmente, perché poi ognuno di noi quattro ha delle idee diverse, a organizzare questi incontri, è il fatto che anche appunto all'interno del libro di Lucia c'è questa narrazione davvero pesante di quello che sta succedendo in questa città. Manca, secondo me, a mio avviso, una prospettiva, una narrativa dal punto di vista delle lotte, che è la grande mancanza che in questo momento questa città riscontra, secondo me, anche rispetto a quello che è successo dal 2015, dal maggio 2015 in poi, tant'è che abbiamo anche citato quella data nella descrizione dell'evento. E quindi proverei a mantenere questo sguardo, quello appunto del riprovare a tessere un filo da quel maggio 2015, per capire che cavolo è successo, che cosa è cambiato e come reimpostare una questione poi di prassi, no? Nelle lotte, che è l'unico modo per uscire forse da questa situazione, da questo pantano gigantesco in cui ci ritroviamo. Niente, io lascerei per questi rapidi spunti la parola a Lucia. Niente, vai. Allora, grazie, però io tenderei anche io a parlare poco, perché se, invece mi piacerebbe qua rispondere e interloquire, se è possibile, che sembra più interessante. E il taglio di parlare della, appunto, questa volta di partire proprio dalla comunicazione è importante, perché in realtà molto spesso passa in secondo piano rispetto a altre cose, rispetto appunto alle questioni dell'abitare, della casa, dell'espulsione, dei meccanismi economici, che però, dico, qua si conoscono già benissimo. Secondo me la cosa, il problema della comunicazione è importante anche perché riguarda molto da vicino anche il punto di perché anche le lotte sono frammentate. Cioè, secondo me, delle lotte non è che non si sia mai parlato qua a Milano, si raccontano molto, tutti gli attivisti, le forme attivismo, eccetera, si raccontano molto tra loro per tentare di riconnettersi, eccetera. Però il problema è che nel mio libro io mi sono molto, diciamo, ho focalizzato moltissimo l'attenzione su quali sono tutta una serie di fenomeni che invece portano alla frammentazione continua. Cioè, perché queste lotte, che pure ci sono state presenti, sono state molteplici, fatte da persone diversissime tra di loro, vecchi, giovani, persone di quartieri che difendevano un certo pezzo, lotte che a sfondo ambientale, lotte a sfondo sociale, lavoro, contro gli sgomberi e le occupazioni, contro gli sfratti, eccetera, eccetera, perché non si ricompongono mai? Questa è una cosa che peraltro mi ha particolarmente provocato una rabbia mostruosa sotto la seconda elezione di Sala. Quello è un momento, per me è stato un momento impressionante, perché è vero che era un momento Covid ancora, però era un momento in cui era già emersa, appena prima del Covid, una fortissima, cioè era cominciata a emergere una fortissima forma di anche nella comunicazione. Finalmente si era cominciato a rompere questa compattezza nella comunicazione positiva di Milano, già nel 2019, forse, io non so tu dove fossi, dove eri? In Francia. Però era uscito perfino un articolo su Le Monde che diceva che il modello Milano non stava andando così bene come diceva, che questo per me fu un segno incredibile, sicuramente fu un colpo tremendo per la giunta Sala, perché soprattutto ci tiene moltissimo a promuovere l'immagine all'estero, no? Come tutte le città diciamo che si lanciano nella competizione globale, l'immagine all'estero è fondamentale. Eppure aveva cominciato a incrinarsi anche sui grandi media internazionali, e perfino la cosa che proprio secondo me è stata più terribile per la giunta Sala 1, sulla classifica degli expat. La classifica degli expat è una cosa, ovviamente, per me è ridicola, chi se ne frega della classifica degli expat, ma invece qua aveva fatto un'impressione terribile. A un certo punto era emerso che nella classifica degli expat Milano non era un buon posto dove andare, e questo quindi significa che nella reputation internazionale di città come di Milano come città, appunto, per tutte quelle popolazioni short terms che tutti tentano di attirare, cioè le persone più creative, più intelligenti, più studiose, più magari a buoni stipendi, più smart, eccetera, eccetera, quelli lì stavano dicendo che Milano non è un buon posto perché non è sufficientemente vibrant, però invece par contre è troppo caro, che offre un lusso evidentemente. Insomma, e questa cosa era stata presa malissimo. Al di là dei riflessi nella reputazione, diciamo, di queste cose fighette, che però, ripeto, a loro facevano molto male, finalmente invece tutti quei comitati, attività, finalmente stavano manifestando in maniera molto più evidente di prima tutte le loro lotte, si stavano cominciando a unire. Poi è arrivato il Covid, ovviamente è stato quello che è stato, però poi a un certo punto, nel giro di pochissimo tempo, tutto quel fermento che si era unito cade, perché arrivano le elezioni, le seconde elezioni, cioè le elezioni per il secondo mandato di Sala, di fatto, che sono state immediatamente, hanno creato un'immediata sospensione della combattività, della conflittualità in quasi tutti questi comitati, e purtroppo particolarmente tra l'altro in quei comitati e purtroppo anche nei movimenti. Cioè io mi ricordo che proprio, non so, fino al giorno prima c'erano le manifestazioni, che ne so, ambientaliste e giovanissimi, poi il giorno dopo che arrivavano anche però sui territori, quindi che lottavano anche per che ne so, la goccia piuttosto che la piazza d'armi, il parco sud, non so, per le varie lotte che c'erano in quel momento. Poi all'improvviso dice: no, noi ci occupiamo solo di COP27. Dice: ma perché? Perché, purtroppo, perché? Perché immediatamente a un certo punto si è creato un sistema di sospensione, evidentemente in una possibile pensiero di cooptazione e mediazione per le prossime elezioni, un riassesto in vista delle elezioni. È stata una cosa terribile, perché infatti ha vinto a man bassa, diciamo, alla fine. È vero che c'era un'opposizione allucinante, cioè un non vero oppositore, ma io ovviamente non è che mi augurassi che vincesse la destra, ma tutto questo composizione di lotta, io non... Ripeto, non è una questione che speravo che nascesse un sindaco estremista. Sto dicendo che però era impressionante, non è una questione elettorale la mia, sto dicendo che però proprio si abbassò di colpo tutta la conflittualità nella città. Cioè a un certo punto mancavano le persone, c'erano tre persone ovunque, cioè, a un certo punto c'è stata una frammentazione totale. Allora, questa cosa qua fu, ripeto, indipendentemente dal risultato che era... Non so, forse era scontato, comunque ci lascia anche relativamente indifferenti. Dubito che ci sarebbe mai salito un sindaco rivoluzionario in questa città. Ma non è questo il punto. Il punto è perché. E questo perché fa anche parte, diciamo, tra questi perché ci sono tutti quei meccanismi di cooptazione che descrivo nel libro, cioè tutta quella partecipazione neoliberale che tira dentro tutto l'associazionismo, tutto il lavoro sociale, il lavoro culturale, gli artisti, i giovani artisti, i ribelli, e però purtroppo anche grande parte, diciamo, di quei attivisti, di quelli che combattono, di noi che combattono, perché tanto è chiaro che in un mondo molto molto precario qual è il nostro, in cui tutti dobbiamo fare una serie di miracoli per cercare di stare dentro questo, è molto facile fare parte, cioè che quasi, diciamo, una altissima percentuale di noi fa parte di qualche cosa che a un certo punto viene cooptata e si trova davanti a scelte, dice: che faccio, non lavoro o cerco di acchiappare, pure litigo e mi gioco questo pezzo di rete, di network, oppure mi rigidisco, oppure medio. Comunque sono problemi obiettivamente seri. L'altra cosa che però, un altro tema che a me mi ha lasciato perplesso in questi anni, è comunque come il sistema della comunicazione in sé, cioè questa specie di cooperazione che diciamo, il capitale vuole da noi, vuole sempre che noi diciamo: bello questo, bello quell'altro, grazie per avermi invitato a questo, ottimo questo progetto a cui io partecipo. Cioè. Però questo sistema di comunicazione continua, cioè di fare sapere a tutti quello che stiamo facendo, eccetera, eccetera, a cui nessuno può sfuggire, però è stato anche assunto, secondo me, in maniera piuttosto critica anche proprio dai movimenti. Cioè anche dai movimenti, anche dagli spazi, occupati, eccetera, eccetera. Cioè c'è l'idea che comunque la comunicazione va fatta. E secondo me questa cosa qua e non va boicottata. Cioè, insomma, questa cosa bisogna sempre in qualche modo appunto fare i comunicati, controllare cosa viene detto di sé. Cioè, quindi controllare la propria reputazione, la propria immagine. Questo come se si fosse un'associazione, come se si fosse una fondazione, come se si fosse un ente che appunto ha bisogno di, ripeto, controllare la propria reputazione. È una cosa che capisco perché cioè, quando non si controlla la reputazione spesso succedono delle cose terribili. Però... cioè, nel senso, certe volte in momenti come questo con i social eccetera eccetera possono succedere veramente delle cose molto sgradevoli, però dall'altro lato l'idea che anche degli spazi occupati rilascino dei comunicati come fossero dei comunicati stampa del tutto sovrapponibili a quelli di aziende, ditte, enti politici, eccetera, eccetera, a me lascia molto sconcertato. Cioè il fatto che io da giornalista, quando andavo a intervistare alcuni di questi attivisti per cercare di raccontare le lotte, poi fossi sottoposto a un sistema di controllo di quello che io avevo scritto, anche peggiore di quello di un'azienda di lampade, non è politicamente bello, cioè è una cosa bruttissima, ecco, questo voglio dire. Secondo me, ecco, ho un po' l'impressione che anche proprio sottoporre a critica questa cosa, cioè il fatto che noi dobbiamo comunicare esattamente come comunicano quegli altri, cioè dobbiamo promuovere un'immagine, è giusto? Bisogna non dire delle cose che sono successe dentro perché sennò si offusca l'immagine. Cioè, ecco, questo tipo di problemi è profondamente depoliticizzante. Cioè, è una cosa che prosciuga la carica politica del conflitto, insomma, di quello che dovrebbe essere la parte conflittuale della società. E quindi è facile poi essere presi dentro le maglie di un meccanismo come quello del modello Milano. Io queste sono le questioni che vorrei porre. Ci terrei però molto a sapere cosa ne pensate di quello che dico io, se vi sembrano cose fuori dalla vostra percezione, e altre cose che invece magari altri dubbi o altre forme di non lo so di obiezioni anche che ci sono state riguardo a come questo cioè gli argomenti del libro e a come eventualmente hanno girato, ecco. Voi avete invitato le persone se qualcuno vuole intervenire, dare il cambio. Vabbè, io sono Agostino Petrillo, faccio il sociologo più o meno, anche se non sono convintissimo di questa qualifica, lavoro al Politecnico, al DASTU. Io ho letto con piacere il libro di Lucia che ho recensito e forse anche circolato la recensione, l'avevo data a Tommaso un po' di tempo fa. Per cui è disponibile per chi la volesse leggere, è uscita anche sulla Casa della Cultura. Il libro è chiaramente bello, no? Il libro è chiaramente bello, indovinato, è uscito anche nel momento giusto. Cosa ci ho letto io personalmente? Un senso, per quanto mi riguarda, di smarrimento. Perché da tempo sono convinto che le nostre città stanno cambiando profondamente, in maniera ancora più accentuata di quello di cui noi ci possiamo rendere conto. E il libro di Lucia metteva proprio il dito su questa trasformazione in corso, che è, come dire, il divenire qualcosa di altro delle nostre città rispetto al passato. E quello che i greci, con una bella espressione, chiamavano metabasis eis allogenos, la trasformazione in qualche cosa d'altro. Ma stiamo attenti, perché le trasformazioni in qualcosa d'altro non sono mai indolori, recano sempre con sé delle perdite. Qualcosa viene perduto in questo passaggio. E qui, come dire, mi sembra proprio che un pezzo di Milano stia andando perduto, no? Quella Milano di cui parlava Lucia prima, dei movimenti, dell'associazionismo, ma anche un particolare modo di vivere la città, di essere presenti nella città. Ma questo già, come dire, lo sentivamo da tempo, era nell'aria già da tempo che una certa Milano se ne stava andando, no? e che stava arrivando una Milano diversa. E qui c'è appunto la ragione del mio smarrimento, perché io vedo anche nella città dove io vivo, io insegno a Milano da un quarto di secolo, ma non sono milanese, sono un povero pendolare tra Genova e Milano di lungo corso. Beh, anche a Genova, che è la città dove vivo, cambiate tutte le cose da cambiare, perché poi Genova è una città profondamente diversa, non solo per la sua storia sociale, politica ed economica, ma anche per le trasformazioni degli ultimi anni, anche per un modello Genova imitativo di quello milanese, che però fondato su altro tipo di mitologie rispetto a quello milanese, la mitologia del fare, del costruire, del ricostruire, eccetera, eccetera. Però anche lì un modello comunicativo che occulta un passaggio, che occulta un cambiamento, che nasconde il fatto che la città sta diventando qualcosa di diverso da quello che era prima. E cosa sta diventando Milano, no? Milano sta diventando una città che si allontana da certi modelli europei. Qui, come dire, una delle poche cose sensate che hanno scritto i colleghi dell'osservatorio sulla casa abbordabile, adesso si chiama, prima si chiamava affordable, no? Non ho mai capito perché, comunque sia. Nel loro report, una delle poche cose, secondo me, veramente sensate, è che Milano rischia di diventare qualcosa che non è più la città europea come siamo stati abituati a conoscerla, come dire, nell'ultimo scorcio di secolo e nel Novecento, nel senso che sta diventando qualcosa d'altro. E che cosa sta diventando? Sta diventando una città che, secondo me, insegue più dei modelli di tipo americano terzo mondiale, in cui le divisioni sociali sono nette, i poveri sono sbattuti dove sono centrifugati e non se ne frega niente a nessuno, no? Ma se veramente si procede in quel senso, allora bisogna interrogarsi di cosa rimane di quelle forze di cui parlava prima Lucia, di movimenti, di reattività, di associazionismo, di capacità politica, che pure, come dire, in una città come Milano l'hanno profondamente attraversata così a lungo. E qui sono anche molto preoccupato, perché vedo per esempio alcuni esempi genovesi che mi parlano non solo di quello che tu dici, l'ammutolimento, il coinvolgimento, la cooptazione, io vedo anche di peggio all'opera. Io ho fatto recentemente un po' di interviste in un quartiere su cui ho lavorato, il CEP di Pra, che è un vecchio quartiere di edilizia popolare che era stato attraversato da una ventata di rinascita, con un comitato molto attivo che aveva rovesciato l'etichettamento del quartiere, che aveva promosso tutta una serie di iniziative. Sono tornato 7 anni dopo a fare un giro di interviste e ho trovato una situazione molto cambiata, in cui addirittura una parte degli animatori del vecchio comitato si sono separati, danno la caccia agli occupanti abusivi, votano Meloni, cioè i processi che animano anche ventate di movimento, se poi non sono adeguatamente sostenuti, adeguatamente seguiti, se non riescono a imprimere, a lasciare un segno anche che si, come dire, consolidi, no? Se non sono solo, usiamo un parolone, epifenomenici, no? Se non sono soltanto legati a delle particolari contingenze e dopodiché si eclissano, beh, ma possono anche produrre poi, generare poi dei mostri, generare il loro contrario, generare qualcosa che va nel senso dei nazionalpopulismi reazionari, perché poi può funzionare anche così. E allora forse, come dire, Milano è uno degli esempi di come può andare a finire male, anche se probabilmente alcune tendenze negli ultimi anni sono state così esasperate che, non so, io sono rimasto molto incuriosito, non so se l'avete vista, una recente video intervista a Manfredi Catel, in cui Manfredi Catel dice che il problema di Milano è il capitalismo, e il capitalismo è troppo aggressivo, e che adesso cosa bisogna fare? Bisogna concentrarsi sullo sviluppo della città dall'interno, perché questo capitalismo, insomma, a Milano, Manfredi Catel che dice una cosa di questo genere, no? Evidentemente, come dire, il peso degli squilibri che si stanno creando a livello sociale, dei processi di centrifugazione verso l'esterno di una parte importante della componente degli abitanti dei vecchi quartieri in via di gentrificazione. Beh, tutto questo evidentemente si teme che abbia un peso sociale difficile da reggere, che possa veramente generare conflittualità, forse una conflittualità di tipo nuovo, di tipo diverso, non quella a cui noi siamo avvezzi. Però evidentemente questa fase di passaggio, questa fase di transizione è una fase in cui la città può schiudersi a futuri tra loro molto diversi, alcuni dei quali non sono per nulla gradevoli. E per cui, come dire, questo semmai sarebbe il momento di intervenire, no? Poi qua si aprirebbe tutto un discorso sul fatto che, per esempio, continuamente vengono recitati gli alti lai, ma l'ente pubblico, l'amministrazione, la mano pubblica, il pubblico dovrebbe intervenire, ma quando ormai i buoi sono scappati, da dove devono venire poi le proposte? Cioè, questa è un'altra cosa, perché la politica è afona, non è in grado di esprimere delle proposte. Il mondo dell'università ormai è separato dal sociale in maniera sempre più netta, ma chi le deve fare allora le proposte di contenimento, di ridimensionamento di un immobiliarismo, di un capitalismo immobiliare che sembra fare il bello e il cattivo tempo in città? Chi li ferma? Come? No? Quindi si aprono degli interrogativi molto grossi, perché o veramente riesce a esserci un fronte in grado di arginare, di fare delle proposte. Anche il fatto che i colleghi, anche quando scrivono i loro articoli, continuino a lamentare. Ho visto quella recensione uscita da poco del tuo libro, in chiave di recupero dei beni comuni, eccetera, eccetera. Non so se l'hai vista. È uscita una settimana fa di un gruppo di urbanisti che si occupano di beni comuni che l'hanno recensita, non l'hai vista? Leggila, perché è interessante. Cioè, la fiera delle buone intenzioni in cui però non c'è un singolo passaggio in cui si riesce a capire chi li dovrebbe mettere in atto questi processi, da dove devono partire, tra l'altro io ho avuto un'impressione, come dire, adesso non voglio mettere i piedi con troppa forza nel piatto della politica, diciamo, istituzionale, no? Ma 2 mesi fa mi hanno chiamato a una festa che era una festa del PD, tra l'altro non so perché abbiano chiamato me, ma ho un amico che purtroppo Michele Grimaldi è in questa banda e mi ha invitato a questa festa di left wing, che sono poi gli orfiniani, no? In pratica. E io dovevo presiedere un tavolo in cui c'erano rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni legate a loro un po' di tutta Italia. Ma il panorama è stato impressionante, perché nessuno aveva un'idea nemmeno vaga dei temi che erano all'ordine del giorno. Un paio di consiglieri comunali milanesi c'erano, hanno detto: ma noi non sappiamo niente, fa tutto il sindaco, a noi non ci dicono niente, no? E in generale il livello di informazione e di preparazione era fermo a: ma il partito non ci dà indicazioni, noi non sappiamo cosa fare, non sappiamo cosa sta succedendo. Cioè, allora qui veramente uno comincia a porsi degli interrogativi grossi, no? Perché come dire, il Cassandra Crossing, il treno è ben avviato sul ponte, per cui niente, scusatemi se ho parlato troppo lungo, finisco qua. Io sono Emilia, sono stata insegnante al Politecnico, dove ho sempre insegnato architettura ambientale. E inseguo questo tema, anzi l'ho fomentato con tanti altri a livello nazionale. Allora, quello che pensavo di raccontarvi, partendo da questo libro, e da quello che hai detto tu, è proprio questo, cioè che se noi leggiamo il piano regolatore generale di Milano, il PGT, è impressionante, perché tutto quello che noi ci siamo trovati realizzati in realtà è stato programmato. E il piano, il PGT del 2030 è uno tsunami per Milano, cioè Milano mette le mani sugli spazi internodali, sulle piazze, sui quartieri, descritti in modo molto dettagliato, cioè questo tipo di rigenerazione, interventi del nuovo e via dicendo, che sono effettivamente come un enorme vento che continua a spazzare su Milano. Allora, il problema, secondo me, rispetto a questa situazione per quanto riguarda la gestione del Comune di Milano, è molto forte nell'intreccio tra il Comune e quello che il nome ufficiale è PPP, che vuol dire partenariato pubblico-privato, il che vuol dire che è l'immobiliare pesante che è entrata a piedi forti sulla questione della gestione del territorio. Vi do una prova. Allora, un pezzo di PGT ci dice, in termini, perché i PGT sono migliaia di pagine generiche, e ovviamente, per esempio, questo. È importante evidenziare come l'incremento di suolo libero non urbanizzabile, ossia sottratto ad una potenziale urbanizzazione, sia localizzato principalmente ai margini del tessuto urbano consolidato, in maniera tale da poter divenire occasione per la ridefinizione del perimetro del Parco Agricolo Sud di Milano, che potrebbe incorporare le aree destinate all'agricoltura direttamente adiacente. E ha detto, adesso mi leggo invece un pezzo che è stato pubblicato col report Scenari Immobiliari e Unipol, dove dice: abbiamo attivato una transazione di volumetrie da aree edificabili ubicate a sud della città verso altre aree edificabili a nord con grandi potenziali di sviluppo, Bruzzano e Stephenson. Cioè, e qui poi ci dice che appunto loro hanno ceduto 45 ettari che diventano Parco Sud. Allora, c'è come una storia istituzionale di grande intreccio, no? Dove il comune fa il vago, poi dopo qualche settimana, dopo qualche mese, trovi invece che le cose sono vaghe, ma non nella realtà economica. Allora, questa stessa cosa, cioè questa enorme critica di come il privato si infiltri nel pubblico, appare anche in un articolo di oggi che è uscito sul Manifesto, e che dice, questa è una signora seria che si chiama Marianna Mazzuccato, e questa dice: la questione è sempre la stessa, il ruolo della funzione pubblica, lo Stato che ha smesso di investire sulle proprie capacità e ha preso a imitare il settore privato, compreso la comunicazione, mi viene da pensare, per come l'hai anche raccontato tu, con le sue parole d'ordine, le sue logiche, perdendo il controllo della situazione, il pubblico. La pervasiva presenza del tutto inefficiente e tossica della società di consulenza dietro le stanze decisionali delle funzioni pubbliche a livello globale è appunto un aspetto di lotta che va ufficializzato, cioè probabilmente noi dobbiamo incominciare ad attaccare questo privato che si interessa delle cose pubbliche. Allora, quello che a me sembra importante chiedere, esigere dal Comune, è che questi PGT devono smettere di essere così, devono avere un frontespizio semplice con delle voci chiare. Per esempio, una voce, li ho elencati, quindi. Allora, la prima voce è il suolo, no? Ora, noi sappiamo che Milano ha sono 181,87 chilometri quadrati, questo ce lo dice il Comune, ma non è un dato certo, perché se lo trovi da qualche altra parte oscilla di mezzo chilometro, e mezzo chilometro non è una cosa da niente. Allora, dopodiché, diciamo, la genericità per trattare il suolo esce fuori continuamente, per esempio in un capitolo che si chiama Consumo del suolo e rigenerazione, divide gli ambiti in superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile e superficie non urbanizzabile, no? E dice l'urbanizzabile è il 72%, 131 chilometri, l'urbanizzabile il 2%, cioè 3,65 km, il non urbanizzabile sono 47 km quadrati. Però cosa comprende questo non urbanizzabile? Comprende tutti i pezzi di terreno ancora verde superiore ai 5.000 metri quadrati, comprende le aree agricole e dal 13, miracolo della regione Lombardia, comprende anche le superfici idriche, tutti i campi sportivi, eccetera, eccetera. In un altro capitolo, dove si dice struttura complessiva degli usi del suolo, invece li divide in aree costruite e in aree verdi. Le percentuali non tornano con quello del capitolo precedente. L'unica cosa che ci dice è che tutti i municipi, nei municipi prevale il costruito, ad eccezione del municipio 5, 6 e 7, e qui andrà la golosità di quelli che vogliono investire, perché Bruzzano, voglio sapere da che parte sta. Allora, loro, per quanto riguarda questo ragionamento sulla superficie, ci prendono poi in giro, perché lavorano molto tutti, anche tanti di noi lo chiedono, qual è la superficie che andiamo a urbanizzare, cioè a togliere la permeabilità dell'acqua e via dicendo. È inutile, si può leggere il PGT 7 volte e non si capisce niente. Allora, il PGT, naturalmente, il suolo, deve essere messo in rapporto anche rispetto al numero degli abitanti. E qui c'è il primo dato interessante, cioè Milano nel 2001 era 1.250.000 persone, nel 2023, ce lo dice Sala, non l'Istat, siamo 1.400.000, in realtà ne mancano un bel po' per arrivare a 1.400.000. Nel PGT c'è scritto che nel 2030 saremo 1.460.000. Ora, la natalità a Milano scende continuamente. Dove sta il miracolo? Il miracolo sono gli extracomunitari, cioè quelli che non sono nati a Milano, no? Sono nati in Europa, sono nati extraeuropei, sono africani, asiatici, eccetera, eccetera, che vivono a Milano e che sono in continua crescita. Attualmente sono 300.000. La cosa interessante di Milano è che questi 300.000 non fanno ghetti, sono distribuiti nell'estrema periferia di tutti i municipi di Milano, il che vuol dire che molti di loro inseguono il costo dell'affitto e il costo dell'acquisto di una casa. Ora, gli immobiliaristi che cosa ci hanno detto, questi qua di Scenari Immobiliari? Che il centro costa 9 milioni, la prima periferia arriva a 5 e all'estremo siamo a 2.600-3.000 euro metro quadrato. Se tu metti insieme questo dato, insieme al fatto che il piano regolatore andrà ad assalire queste zone, no? Ecco, ti viene in mente che forse questi 300.000 abitanti di Milano, che noi non intercettiamo perché siamo come divisi in casa, in realtà è un soggetto molto forte che andrebbe veramente finalmente incontrato, incrociato, eccetera, eccetera. A cui dobbiamo dire quello che dite voi, state attenti, perché adesso vi compreranno una casa, vi daranno dei soldi che vi sembrano molti, in realtà voi rimanete senza casa e dove andate a finire? E quindi innescare anche una coscienza di quelli che sono i classici meccanismi degli acquisti, del campo degli acquisti, delle vendite, delle abitazioni. Questo dato, primo dato, suolo, che avrebbe bisogno di avere dei numeri secchi, non 100 numeri, dei numeri secchi, va insieme a un'altra necessità di sapere, per esempio, Milano quanto acqua consuma. Allora, i dati che noi abbiamo sono 2000, sono soltanto del 2016, non sono riuscita a trovare delle tabelle confrontabili su più anni, e ci dice che la prelevata sono 226 milioni di metri cubi all'anno e la consumata è 186, no? La distribuita è 224. Non si capisce come, questo qua è la perdita dall'estrazione alla rete ai consumi, però il sistema idrico di Milano viene giudicato già eccellente, ok? Quindi diciamo, sull'acqua abbiamo un dato, con un dato non ne facciamo niente, cioè dobbiamo averne di più. Allora, un'altra voce, energia, quanta elettricità viene distribuita nella città, no? Allora, abbiamo soltanto dei dati nazionali, forse Legambiente ce li ha su Milano, ma non sono riuscita a trovarli. Però diciamo, il consumo energetico è quello che ci permette di dire, siccome dovrebbe essere divisa per varie voci, no? L'industria, il terziario, la residenza, ci sarebbe molto utile per capire se Milano, con tutti questi metri cubi in più che ha dato, con tutti questi oneri in meno che ha fatto pagare, davvero risparmia soldi oppure no, perché è soltanto con dei dati certi, perché l'energia viene distribuita e quindi puoi benissimo sapere com'è. Sul gas invece abbiamo degli altri qualcosa in più, però abbiamo solo 2008-2012, il consumo del gas tende a aumentare nonostante tutto, ma siamo al 2012 e noi siamo arrivati già al 23. Sui rifiuti invece, fantastico, ci abbiamo il 2011 e il 2021 e lì vediamo che sui rifiuti le cose sono migliorate rispetto al 2011, ed è infatti un vanto di Milano che premia due sindaci, non uno. Uno è Formentini, con Ganapini, Walter Ganapini, ve lo ricordate, l'assessore che ha introdotto la raccolta differenziata, ok? L'altro è invece Pisapia, che ha dato il là per la raccolta dell'organico. Abbiamo due premi. Il terzo premio al sindaco di Milano ce l'ha la Moratti, questo secondo Legambiente, perché ha introdotto l'Ecopass, no? Allora, diciamo, sui rifiuti è l'unica voce che potremmo facilmente riconquistare. Sull'aria, ovviamente, se noi guardiamo com'era l'aria nel 1990 e come oggi, abbiamo fatto salti da gigante. Non ci bastano, però su cui non ho riportato niente. Allora, perché secondo me avere questi dati, non fiumi di parole, frasi, ma entrata, okay, è molto importante? Perché in una logica storica, perché se il Comune di Milano mi viene a dire che saremo 1460 abitanti e prevede di costruire entro il 2030 4 milioni di metri quadrati, lo fa sugli abitanti. Scenari immobiliari invece non va al 30, salta al 35 e dice no, no, di metri cubi, di metri quadrati da costruire saranno 9.500. 9.500.000. Quindi diciamo sapere esattamente i numeri è fondamentale. Poi l'altra cosa che secondo me è fondamentale è: c'è qualcuno che verifica gli effetti di tutti questi miglioramenti richiesti, che continuano ad essere richiesti, cioè sempre più efficienza, sempre più o gli oneri di urbanizzazione non monetizzati e dati con scambi di aprire giardini e via dicendo. Cioè, su questo il comune può chiedere di tutto, il privato può firmare di tutto, dopodiché nessuno controlla. Io personalmente sto in un edificio che avrebbe l'obbligo di piantare 30 alberi, credo che ne abbia piantati 11 e non ci sono santi, cioè nemmeno io nelle assemblee condominiali riesco, sono soltanto diventata noiosa di anno in anno, ma non c'è il minimo controllo, mentre invece è un interesse della città che gli oneri di urbanizzazione, specialmente se vanno sul verde, abbiano un costante effetto positivo rispetto alla città. L'altra cosa che secondo me io non sopporto è che diano premi al Bosco Verticale o a City Life per poesia. Allora, secondo me i grandi interventi o gli interventi a più, noi dovremmo sapere quali sono i loro consumi energetici di acqua, di produzione di rifiuti, edificio per edificio, perché hanno avuto veramente troppi vantaggi perché non esprimano con dei numeri il loro impatto ambientale. Questa mia insistenza è legata anche all'ultima richiesta di questo Oxfam, dove appunto ci viene a raccontare che il 10% della popolazione impatta come 5 miliardi. No? Allora, se Milano è una città che sta spostandosi verso i ricchi, a maggior ragione è necessario che noi controlliamo, no? Che cosa, qual è l'impatto sulla città e sul mondo di queste brave persone. Finisco semplicemente dicendo che il piano regolatore ha solo un baco a nostro favore, cioè che avendo la coda di paglia parla continuamente e ripetutamente di edilizia residenziale sociale, destina 10 aree, non so quali, all'edilizia popolare. Allora, probabilmente questo è un nostro punto di forza, nel senso che possiamo attaccare, così come attacchiamo sul privato che mette il naso nei piani pubblici, possiamo attaccare dicendo bene, allora l'edilizia residenziale popolare, mettiamoci tutti insieme, vediamo anche noi se possiamo avere degli alleati. Per esempio, questa cooperativa che era nata da Pietro Basso 30 anni fa, no? Che era nata come cooperativa ai migranti, che si chiama Dar Casa, una cooperativa Dar Casa, che è quella che sta costruendo molto adesso. Allora, per esempio, un soggetto così può diventare nostro alleato? Possono diventare alleati tutti quelli, i negozietti telefonici che ci permettono forse di contattare tutti gli extracomunitari che stanno a Milano? Ecco, allora, questo era quello che volevo appunto anch'io aggiungere degli elementi, facendo riferimento al fatto che i numeri ti permettono un sacco di magie, no? Però te ne permettono meno se ci sono dei numeri ufficiali che sono lapidari, insomma, sono concretamente utilizzabili. Ma Io sono d'accordo sui numeri e credo che però appunto una delle cose che ripetiamo sempre è proprio che invece l'attuale regime di comunicazione occulta i numeri, occulta i dati, questi piani regolatori fondamentalmente, tutti in generale i piani regolatori, l'urbanistica recente trasformata ormai in rigenerazione urbana, non si chiama più urbanistica, è fatta in modo da frammentarsi anche lei in leggi che si leggi e progetti che si sovrappongono senza nessuna chiarezza, cioè noi non sappiamo, è ormai un'opera titanica capire su un singolo quartiere quanti diversi strati di piani, progetti, progetti pubblico-privati, progetti pubblici, progetti a carico, eccetera, eccetera, ricadono incomprensibili. E una delle strategie fondamentali comunque dell'amministrare contemporaneo è proprio quella di non raccogliere i dati, cioè negli anni 70, fino agli anni 70 si faceva, cioè, si investiva moltissimo anche proprio in lavoratori statistici che raccoglievano dati, quanti sono, per esempio, per fare la legge dell'ecocanone, per intendersi, che era una cosa, non è che uno fa la legge dell'ecocanone, scrive una norma e così, si era fatta una ricerca immensa in Italia sulle condizioni abitative, quartiere per quartiere, casa per casa, c'erano gruppi di gente che veniva pagata dallo Stato per andare a vedere, a rilevare quante persone abitano per ogni stanza, nel centro, nei quartieri, nelle periferie, nelle cose, eccetera, eccetera, città per città, paese per paese. Questo ci possiamo dimenticare. Attualmente l'amministrazione milanese, ma anche tutte le altre, cioè a Napoli non ne parliamo proprio, stavamo parlando prima, Genova pure immagino, il concetto invece non raccogliere nessun dato, si parla di misure che apparentemente sembrano sociali come l'housing sociale, l'ERS, l'edilizia residenziale sociale, che invece è assolutamente un regalo ai privati, punto, ma nessuno va a poi controllare queste case che vengono costruite con i soldi pubblici, che vengono assegnate, che diciamo che danno una serie di premialità, incubature, una serie di vantaggi immensi al privato, eccetera, eccetera, quante di queste sono state affittate, quante di queste sono state vendute, quante di queste sono state affittate a chi, in base a quali criteri, in base effettivamente quante di queste sono rimaste affittate e non sono poi state rivendute, quante di quelle vendute sono rimaste ai proprietari e non sono state rivendute a prezzo di mercato, eccetera, eccetera. Niente, quindi di fatto, non sapendo niente, scientemente non volendo sapere niente, il Comune di Milano semplicemente non bypassa il problema, fa solo dei regali ai privati. A un certo punto c'era stato, a un certo punto mi è stato raccontato che l'assessore Rabbaiotti alla fine del suo mandato aveva tentato di prendere due, pur di sapere qualcosa, aveva tentato di prendere due funzionari che lavoravano nell'ufficio dell'urbanistica o delle convenzioni con i privati, perché l'housing sociale è fatto in base a convenzioni, e di portarsene nella casa in modo che potessero mettere insieme i dati e forse ricostruire qualcosa. E poi naturalmente, diciamo, è finita la cosa, poi è venuto Maran, e Maran cosa ha deciso? Maran cosa ha deciso? Ha deciso di sposare la linea, appunto, poi detta, accolta anche da Catella. Cioè, effettivamente, quando il capitalismo si taglia le gambe da solo, perché lo fa continuamente, ha sempre prodotto crisi di sistema che poi dopo gli creavano problemi a estrarre ancora valore dai territori, eccetera, eccetera. Quindi questo è uno di quei casi. Quando le città diventano troppo care per abitare, poi tutti i lavoratori che devono farle funzionare non possono abitarci, e questo è un problema. Quindi perfino Catella dice no, l'eccesso di capitalismo è un problema, dobbiamo un attimo. E infatti cosa fa il buon Catella? Dice io basta, decido da benefattore quale sono, perché io sono il grande benefattore, non sono come l'Igrezia, io sono il grande benefattore, adesso mi occupo anche di fare, sdoppio la mia società Coima in tantissime altre società, di cui una si chiama Coima SG, un'altra si chiama Coima non so che, rigenerarità, c'ha varie forme, non ho fatto un ripasso perché cambiano in continuazione, e dice io adesso mi metto non solo a fare le case di lusso ma anche a fare le case in housing sociale e anche le case popolari, quindi sullo scalo di Porta Romana avremo il villaggio olimpico, tutta questa cosa lui ha fatto insieme a Prato e Covivio, ma avremo anche le case di, finita, una volta finito il villaggio olimpico e le Olimpiadi, queste costruzioni saranno trasformate parzialmente anche in housing sociale e parzialmente addirittura in 95 case popolari, che non saranno case popolari, saranno semplicemente delle case in cui vengono ospitati dalle liste delle case popolari 95 famiglie che avrebbero diritto a una casa popolare. Invece verranno messe in queste case catelle, magari saranno anche un po' più belline di case popolari che cadono a pezzi nel frattempo grazie alla mancanza di manutenzione, però non saranno case popolari, saranno a canone sociale ma per 15 anni. Poi quando scade la convenzione, chissà che fine faranno questi qua che avevano diritto alla casa, non si sa perché non saranno case popolari. Però nel frattempo Catella avrà costruito il suo laboratorio di quello che chiama mutualismo finanziarizzato, cioè controllerà la filiera della costruzione a Milano dal lusso più estremo fino alle case popolari, e nel frattempo Maran cosa gli serve sul piatto? Dice il fatto che, dice, siccome noi ci dobbiamo occupare del fatto che i lavoratori non riescono a abitare a Milano e quindi rifiutano i concorsi, se ne vanno, eccetera, eccetera, noi diamo le case popolari sfitte alle società, alle cooperative, alle case, alle aziende, eccetera, che si occuperanno di ristrutturarle e poi le affitteranno ai loro lavoratori. Quindi tolgono a chi non ha neanche un lavoro per dare a chi ha un lavoro, in modo che almeno la città possa funzionare, diciamo, allo scopo di far funzionare meglio il capitale. È una vergogna assoluta. Io non sento, è quasi un anno che ha annunciato questa cosa, questo piano, e adesso l'ha realizzato perché ha lanciato il bando. Non ho sentito niente contro questa cosa, niente. Ci sono comitati in tutta Milano che si occupano della casa, che vanno a difendere gli sfrattati, ci sta il SICET, ci sono altri 150 sindacati, eccetera, eccetera. Non c'è reazione su questa cosa, nessuno dice nulla. Eppure, voglio dire, togliere ai poverissimi per dare alle aziende che affittano i lavoratori, quindi tra l'altro ingabbiandoli in una doppia precarietà, perché tanto ormai anche chi è assunto a tempo indeterminato è precario, perché è licenziabile, tranne che non sia pubblico. Quindi tu non solo... Facciamo la company town, no? Cioè, non solo il lavoratore è precario, diciamo, è per definizione precario e deve stare mille volte più ricattato di prima, ma adesso anche la sua casa dipenderà, sarà un privilegio che dipende dall'azienda, e quindi se perdi il lavoro perdi anche la casa. Sembra come l'America, no? Cioè, voglio dire, come negli Stati Uniti, se perdi il lavoro non perdi anche la sanità, eccetera, eccetera. È giusto scandalizzarsi, no? Però mi sembra più giusto scandalizzarsi perché ci si rivolge solo a questa categoria. In realtà le fabbriche hanno sempre messo a disposizione abitazioni per le persone che lavorano, no? Lavoravano per loro. Ok, quindi diciamo, quando io ho sentito questa notizia mi sono scandalizzata per quelli che non lavorano, però non, mi sembrava all'interno di una storia dell'abitare. No? No, perché prima chi era assunto a tempo indeterminato era assunto a tempo indeterminato, non era licenziabile, è molto diverso. Essere oggi solo i professori universitari, insegnanti di scuola e qualche altra ristrettissima categoria di dipendenti statali non sono licenziabili, tutti gli altri di fatto sono precari. Ricordiamocelo questo, perché non è, cioè, il lavoro a tempo indeterminato da Renzi non esiste più, non è più un lavoro a tempo indeterminato. Quindi se anche la tua, un conto era quando la tua, a parte il fatto che comunque anche quelle storie lì non erano del tutto virtuose, comunque tendenzialmente erano tutte private o erano tutte pubbliche, cioè erano altri tipi di accordi, molto più garantiti. Oggi semplicemente tu c'hai un comune che si propone come laboratorio d'Italia, come sempre ha fatto sulla CAE, quindi si propone di estendere a tutta Italia questo modello disgustoso, che toglie le case ai poveri, cioè le case popolari, per darle a delle categorie di lavori, per favorire il fatto che la città capitalista continui a funzionare sulle spalle di dei disgraziati sempre più ricattabili. Allora, è una cosa, comunque, al di là di tutto, ripeto, questa è una cosa che è stata manifestata a marzo. Non si è sentito, non c'è stata una manifestazione su questo argomento. Niente, niente, c'è stato giusto qualche articolo. Questo è un segno di quello che dicevo prima, per tornare al discorso della comunicazione e della frammentazione. Cioè, così come, per esempio, tutti i movimenti per l'abitare, che sono tantissimi, sono infiniti, sono veramente una quantità, io faccio fatica a contarli, quanti sono tutti i gruppi di persone che fanno laboratori, che fanno ripicchetti, che fanno movimento per l'abitare. Non sono riusciti, non fanno più opposizione ai grandi progetti. Ora, che si fa fare diciamo gruppi di diciamo di studio, di incontro, di lavoro sull'abitare, anche per quartieri, se non ci si oppone ai grandi progetti che atterrano su quei quartieri? No, significa che, cioè, non lo so, per dire, quando parliamo di... Allora, oggi... No, voglio dire... No, ma ce ne sono. Per esempio, io ho avuto il privilegio di leggere un libretto che spero sia pubblicato a brevissimo, sulla lotta sulla goccia alla Bovisa, contro la goccia alla Bovisa. E tutti i movimenti terribili di cooptazione, illusione... eccetera eccetera, che sono stati fatti anche da parte del Politecnico, ovviamente, che li ha irretiti illudendoli che si potessero fare. Però voglio dire, dal Corvetto quanta opposizione c'è alle Olimpiadi? Ci stanno per fortuna gli anarchici che scrivono le scritte, però diciamo con la forza che c'hanno loro. Dopodiché è finito. E che cosa c'è invece in questi giorni? È uscito ancora, cioè da anni c'è tutto l'associazionismo di Corvetto che fa lega con Cariplo, con una serie di con l'Absus, che fa la finta partecipazione, e addirittura con la rivista Zero, di cui io ero collaboratrice, che continua a fare feste su feste fichissime, secondo loro, al Corvetto, e adesso addirittura fa un laboratorio di pianificazione, tra virgolette, perché sarebbe di pianificazione partecipata, insieme a Tempo Riuso, Stecca 3 di Isabella Inti, e appunto allo stesso tessuto associativo. Cioè c'è in questo momento posizione manifesta, zero. Un associazionismo che parla di pane partecipato, forno condiviso, gestiamo insieme l'aiuola, coltiviamo l'aiuola condivisa, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, questo è quello che sta succedendo. Abitare via Padova finalmente ha fatto la scorsa settimana un incontro, io qui non ho purtroppo potuto partecipare, su Loreto. Però via Padova è un posto dove da decenni ci sono, cioè da decenni no, da, diciamo da almeno un decennio ci sono movimenti a difesa degli abitanti che stanno mano a mano essendo espulsi in vari modi, chi viene sfrattato per la moschea, chi viene sfrattato dai proprietari di casa, eccetera eccetera. Solo adesso, quando sono almeno 5 anni che si parla del C40, il concorso C40, e poi dopo è stato vinto il concorso C40 e poi si è stato detto che vi è un centro commerciale, solo la scorsa settimana finalmente si è fatta una manifestazione contro il progetto di Loreto, poi neanche contro, in cui si discute degli aspetti negativi, forse che potrebbe, le ricadute eventualmente negative potrebbe avere il progetto di Loreto. Ecco, questa cosa qui, cioè, è l'ultima opposizione proprio a un progetto di questo tipo che c'è stata, effettivamente, che io ricordi, è stata quella dell'Isola. E che dove Catella ha scritto il suo libro Milano si alza, non c'è stata nessuna opposizione. No, sì, sicuramente. C'ero. San Siro, sì, ma San Siro però non è stata del quartiere, è stata dei... sì, però, quella secondo me è una grandissima vittoria, anche se non è detto affatto che sia una vittoria, ma già il fatto che si sia ricominciato a discutere del fatto che forse non è il caso di abbattere San Siro è una grandissima vittoria. Però rispetto a una cosa enorme come era il caso di San Siro, quanta opposizione c'è stata? Eravamo non tantissimi. Non eravamo tantissimi. perché tra l'altro abbiamo la riunione del Bosco dove tu hai partecipato a un'iniziativa. E ad esempio lì è una lotta territoriale, c'è una proprietà che è della Curia, un bosco, al di là della, un bosco di 600 alberi importanti, dove c'era la casa del Giovanni, io parlo del quartiere Gallaratese. E questo progetto che vogliono realizzare, lo vogliono realizzare in quest'area dove c'è un bosco, dove c'era la casa del giovane che negli anni in cui è sorto il quartiere accoglieva giovani immigrati, dava anche alloggio a chi ne aveva bisogno. Poi ci sono stati gli immigrati, progetti per minori non accompagnati, tutta una serie di cose che da un anno e mezzo, più o meno da un paio d'anni, hanno chiuso, perché il progetto è che la Curia vende e devono realizzare un progetto di 20 torri, 20 piani, 16 piani, 12 piani, uno studentato con una torre di 10 piani. Da due anni questo comitato per la difesa del bosco di Via Falca sta facendo di tutto, iniziative territoriali, incontri con il municipio 8, perché noi siamo del municipio 8, ha ogni volta analizzato il progetto che veniva presentato, il progetto veniva rimandato al mittente, poi veniva rimodificato, adesso siamo in una fase in cui è stato ulteriormente modificato, combinazione la parte che hanno diminuito come volumetria e quella che riguarda l'housing sociale, che poi anche lì sull'housing sociale c'è ad aprire un altro capitolo. Però quello che volevo dire è quanto è difficile anche una lotta in un territorio che comunque ha una sua storia anche di lotte, c'è stata quella della metropolitana, le vie d'acqua, che hanno anche, come dire, vinto, no? Però quanta difficoltà c'è, perché sembra che sia un problema del quartiere San Leonardo, ma non è un problema del quartiere, è un problema che riguarda, investe tutta la città, perché ogni volta che un progetto passa e avanza e consuma suolo, toglie aree verdi, è un progetto che riguarda tutta la città. Noi ci stiamo battendo da due anni, e devo dire finora quello che siamo riusciti a fare è a bloccare il progetto, cioè nel senso ritorna al comune, il comune lo rimanda modificato, il municipio di zona 8 ha espresso parere negativo, sfavorevole rispetto a questo progetto per quello che può contare. Però nel senso che magari delle piccole lotte territoriali ci sono anche, a volte la difficoltà è però in queste lotte avere aggregazione, perché alla fine si è da soli, noi siamo e c'è un gruppo, voglio dire, tra l'altro di persone anche più avanti con l'età che si dedica, che ne capisce, che perché poi non è solo una, cioè è una questione anche di entrare nel merito del progetto, capire tecnicamente quello che non funziona, quello che funziona. Sicuramente l'intento è quello di impedire qualsiasi cosa, però ci troviamo con una proprietà privata, perché la Curia è una proprietà privata, il comune che ricaverà scarsissimi oneri di urbanizzazione perché a scomputo stanno, però entrare anche lì nel progetto dove, per dire, una panchina costa 3.700 euro, per dire, no? Cioè il progetto prevede anche delle aree pubbliche, no? Che poi andrebbero a scomputo sugli oneri di urbanizzazione. Ci sono delle spese assurde, pavimentazione che valgono 700-800 mila euro, tutto. Però su quello ci si sta, come dire, bloccando il progetto, non sulla questione, cioè non è entrata la questione che non si può più consumare il suolo, che comunque il verde che c'è va difeso, va... come dire, volevo solo dire questa cosa perché più si conoscono le cose più magari c'è anche la possibilità di sostenerle e di aiutare, perché non è che ci troviamo di fronte a poteri così, cioè sono poteri forti che hanno dei progetti chiari. Tra l'altro noi siamo vicino a Cascina Merlata, che è un altro delirio, nuovo centro commerciale, un altro delirio, cioè tutti i progetti che non hanno né testa né coda. Infatti sono venuti fuori adesso il problema dei parcheggi, il problema, cioè stanno praticamente tutta la zona, ad esempio io sono nord-ovest, che è una zona abbastanza verde, stanno trovando il modo comunque di ridimensionare il verde che c'è, comunque di occuparla con questi. Tra l'altro si parlava di prezzi, lì siamo sui 4.000-5.000 euro al metro quadro per la vendita. L'housing sociale comunque, a parte ridotto, sono sempre 700-800 euro per un bilocale, per cui cioè, è ben lontano dal discorso della casa popolare che tiene conto del reddito e di tutto. E niente, volevo solo dire questo, infatti adesso vado alla riunione. No, aspetta un attimo. No, niente, in realtà ha visto che avevamo appunto invitato compagni di Off Topic a parlare, Tommaso dell'archivio, la Giuliana, se vogliono dire qualcosa, continuerai con gli interventi su magari su questa falsa riga che mi sembra molto interessante. Allora, ciao a tutti, io sono Gianluca, appunto, di Off Topic, un collettivo che nasce nel 2011. Il primo appuntamento pubblico che mi ricordo è proprio il Climate Camp a Cascina Merlata, sul solco del comitato e della rete No Expo, rispetto a cui appunto nel 2011 raccontavamo, abbiamo cercato di raccontare, l'abbiamo fatto anche con Conchetta, fra l'altro, che era presente fra gli organizzatori di quell'evento, che in quel luogo stava succedendo qualcosa. Quel luogo, che era un'area non edificata con una cascina molto bella ma totalmente abbandonata e diroccata, appena acquisita da Euro Milano, che approfitta appunto del moto della città, organizzato dal grande evento, da Expo, per andare ad appropriarsi di un'area evidentemente interessante per la speculazione edilizia, che oggi è diventata quella che è diventata. Ci ha messo 12 anni, non tutto in una volta per passaggi, però ad oggi quella zona è una zona totalmente differente. Il nostro lavoro non è un lavoro giornalistico, non è un lavoro, non siamo architetti, non siamo urbanisti, non siamo nemmeno sociologi, siamo un laboratorio politico che quindi ha come l'ambizione quella non solo di descrivere la realtà, ma di cercare anche di trovare un modo per cambiarla. E per fare questo, sin dalla nascita ci siamo mossi cercando di comprendere quali erano le dinamiche che si muovevano in città. Una città, quella di Milano, che se la ricordo quando sono venuto ad abitarci, che era il 2000-2001, era una città totalmente differente, richiusa molto su se stessa, non così attraente per i grandi interessi immobiliari, che mi proponeva adesivi all'uscita delle metropolitane in centro, dove si diceva che no al couscous, sì alla polenta, cose di questo tipo. Una città che cambia in maniera decisa a partire dalla giunta Moratti e poi attraverso le tre giunte di centrosinistra, perché in città succede qualcosa. La deindustrializzazione, che era già attiva da fine anni 90, 2000, va ad aprire degli spazi urbani che diventano possibilità di trasformazione. Noi, cioè, rispetto alle trasformazioni urbane, non abbiamo un'opposizione così di tipo puramente ideologico in favore della conservazione della città che è stata, della città che comunque ci ricordava il welfare pubblico gestito in una certa maniera, la città pubblica, tutte strutture che comunque avevano in sé anche delle criticità, ma che comunque erano in grado di contemperare i problemi derivati dal mercato, nel senso che un po' tutto scorre, no? E in quanto tutto scorre, inevitabilmente la città doveva trasformarsi. Questa trasformazione però ha avuto una direzione determinata da nuovi soggetti che sono a un certo punto entrati in campo e hanno capito che la città di Milano era una possibilità di profitto, prevalentemente. Col fallimento dei Ligresti, degli Zunino, dei palazzinari, no, sopravvivevano da Tangentopoli, si apre la possibilità per i grandi gruppi immobiliari, per i grandi capitali, per le grandi banche, anche di andare a portare il loro intervento in città. Questo è stato facilitato dalla fine del piano regolatore, l'ingresso del piano di governo del territorio, che è un dispositivo comunque di regolazione che regola molto poco, che è più propenso a facilitare, no, gli scambi piuttosto che a limitarli. È avvenuto perché le politiche in città hanno permesso comunque di fare operazioni immobiliari con un livello molto basso di tassazione. Questo è stato un altro degli elementi che comunque ha imposto questo tipo di idea. E è avvenuto anche perché a un certo punto la città di Milano ha pensato Siccome una serie di operazioni non andarono a buon fine, fra cui anche quello che oggi è Porta Nuova, prima di diventare Porta Nuova ha passato quantomeno 2, 3, 4 proposte di trasformazione, tutte comunque andate a buca. A un certo punto qualcosa succede, perché a Porta Nuova e a City Life ci sono i grandi investitori che vanno comunque a realizzare il grande e nuovo quartiere. A facilitare questa trasformazione è stato sicuramente anche l'adozione di una strategia politica, economica e sociale che utilizza il grande evento, anche l'evento in generale oramai, come il strumento di facilitazione, come volano, come un qualcosa che è in grado comunque, attraverso la comunicazione ha un ruolo rilevante nei grandi eventi, il brand ombrello di Expo, come adesso il brand ombrello delle Olimpiadi, attraverso una narrazione della città che la faceva diventare dalla città grigia di epoca Albertini alla città dei creativi, alla città seduttiva, alla città degli eventi, alla città dove si vive 7 giorni su 7, grazie a questo tipo di narrazione si è riusciti a far diventare una città seduttiva e quindi ad oggi preda dei meccanismi di mercato. Il problema quindi della direzione che ha preso Milano deriva proprio dal fatto che a un certo punto si impone il mercato come soggetto in grado di regolare qualsiasi cosa, di regolare ovviamente a suo modo, quindi spostando la ricchezza in una certa direzione e andando comunque a creare degli effetti collaterali su cui in teoria il soggetto pubblico avrebbe nello schema tradizionale dovuto sopire rispetto alle necessità nascenti. I tre piani su cui socialmente questo fenomeno ha impattato sono comunemente chiamati gentrificazione, perché nell'aumento della popolazione di Milano, per bocca dello stesso Maran, che al forum dell'abitare l'ha ribadito, negli ultimi 10 anni, almeno a quel che dice, sono cambiati 600.000 abitanti, ci sono 600.000 nuovi milanesi rispetto a quello che era nel 2011. E abbiamo ragione di pensare che in una buona parte di questi 600.000 nuovi milanesi siano persone, cittadini in grado di comprare abitazione a un prezzo molto più alto rispetto a quello che era la media del mercato in precedenza. E da qui comunque l'esplosione del valore immobiliare e tutti gli effetti perversi che questo comunque in città vediamo e curiamo tutti i giorni. C'è stato tirato molto dagli eventi, non solo i grandi eventi, ormai a Milano ogni settimana c'è una week, c'è qualcosa, e la popolazione milanese è molto più, in maniera abbastanza continua, di quella dei residenti. C'è stato un fenomeno di turistificazione, anche quello che ha inciso sul costo del mattone, sui prezzi dell'abitare, perché grazie anche al platform capitalism, ad Airbnb e alla sharing economy, sono aumentati molto in città gli appartamenti che sono dedicati ad affitti brevi rispetto ad affitti a lungo termine. E per quello che mi avevo potuto vedere con una pubblicazione che abbiamo fatto recentemente anche sul nostro sito, questi affitti a breve termine non vengono gestiti dai piccoli proprietari che hanno ereditato la casa del nonno e l'hanno messa a valore accedendo ad Airbnb. La gestione di queste abitazioni è fortemente concentrata in mano a 10, 15, 20 soggetti che utilizzando più lo schema dell'albergo diffuso piuttosto che del bed and breakfast, in questo modo stanno facendo somme rilevanti, andando quindi a gestire proprietà di altri e andando anche attraverso queste somme a comprare direttamente abitazioni da dedicare e destinare appunto all'affitto a breve termine. L'altro fenomeno di cui ci ha riempito la testa già dai tempi di Expo è quello della smartificazione, quindi della città sostenibile, intelligente, piena di tecnologia, che contiene in sé effetti collaterali quali il data violence, e quindi questo clima anche e questo bisogno continuo di controllo, non solo di episodi criminali o di tutto ciò che è ritenuto non socialmente accettabile, ma anche dei semplici comportamenti che hanno nel dispositivo del DASP urbano, che su Milano c'è, uno degli esempi più rilevanti di come comunque ad oggi la città che si sta arricchendo, la città che sta spostando la ricchezza da una parte all'altra, è anche una città che sempre di più, e lo vediamo nella cronaca delle ultime settimane, degli ultimi giorni, degli ultimi mesi, sempre di più sta sviluppando dei dispositivi di protezione appunto della ricchezza da parte dei gentri o comunque dei milanesi che su Twitter da bravi influencer ci raccontano quanto è pericoloso uscire di casa a Milano. Questo è un po' un ultimo stadio, un'ultima fase di questa trasformazione, che è quello in cui fatta comunque la città per ricchi, questi ricchi in qualche modo si devono difendere, e si devono difendere attraverso i sistemi biometrici, attraverso dispositivi altamente invasivi e altamente limitanti, sia la nostra libertà personale, sia anche la nostra riservatezza. Questo per dire che il fatto Expo, questa città aveva bisogno di un altro grande evento per continuare a vivere nella bolla, no? Nella bolla dello sviluppo fortemente differenziato, ma comunque continuo. Perché un modello di questo tipo, mercato-centrico, probabilmente in una fase espansiva può funzionare, in una fase di contrazione probabilmente no. Questa è un'ipotesi, perché va detto che ci troviamo davanti a un contesto che in questo paese è nuovo, in cui i soggetti sono soggetti molto grandi economicamente. Coima ha un capitale stimato in 9 miliardi di euro, Covivio, che è un altro grande soggetto che è protagonista nelle trasformazioni urbane, ha un patrimonio stimato in 30 miliardi di euro, le consulenze sulle trasformazioni urbane al comune le fa Bloomberg, prevalentemente. Bloomberg vuol dire qualcosa. I revisori dei conti si appoggiano quotidianamente a Deloitte, che comunque è una società che porta una certa ideologia in maniera anche molto coerente, voglio dire. Quindi una fase di contrazione potrebbe fare in realtà anche sopravvivere a questi soggetti. Detto questo, per continuare comunque a far muovere la baracca, evidentemente serviva un altro grande evento da affiancare agli eventi di medio cabotaggio che percorrono la città di Milano per tutto l'anno. Per cui si è andati a lavorare, a cercare ed ottenere l'Olimpiade. Un'Olimpiade che va detto che è stata assegnata a Milano senza sostanzialmente concorrenza, perché la candidatura di Stoccolma è stata una candidatura timida sin dall'inizio. Gli altri contendenti si sono ritirati prima dell'assegnazione, alcuni dei quali grazie a un referendum cittadino che ha imposto la non candidatura. E quindi adesso, in mezzo a questa nuova rincorsa al nuovo grande evento, in certo qual modo, di seguire la fascinazione di replicare quello che è stato Expo, su cui c'è stato comunque un movimento di opposizione, con i suoi limiti, funzionato, non è funzionato, comunque di cui ci si ricorda, diciamo così, che è stato in grado di unire le forze in questa città in una certa direzione, di unire soggetti fra di loro eterogenei, che però hanno deciso di camminare per un periodo assieme, facendo gli stessi passi, ognuno con la propria differenza, con il proprio essere, però in un contesto condiviso e comune. E quindi allo stesso modo in cui il grande evento riesce a far coalizzare le forze che in città gravitano attorno alla speculazione edilizia, all'ideologia del profitto, al mercato, Anche in questo caso, dal punto di vista dei movimenti, l'Olimpiade può riuscire a fornire una suggestione simile. Questo perché è vero che esistono in città opposizioni e noi siamo meno negativi rispetto a quello che ho sentito stasera, su cui comunque sento anche un po' di scoramento, perché è vero che esistono tanti episodi isolati fra di loro, su che scarsamente sono collegati e che non riescono ad incidere sui grandi temi in città. È anche vero che per incidere sui grandi temi in città, in un modo o nell'altro, il problema dei rapporti di forza dovremmo anche trattarlo. È un problema che esiste ed esistendo, non dico il andare subito a ragionare sui punti focali, su una piattaforma, su tutto quello che è. Però esistendo la questione dei rapporti di forza, esiste anche un problema di come fare a coordinarsi e a condividere e a trovare un modo per stare in piazza e per riuscire a fare cose assieme. In un modo o nell'altro, attraverso anche una relazione con le palestre popolari che sul tema Olimpiadi comunque hanno una loro sensibilità, andando anche a recuperare quello che quando noi pensiamo al diritto alla città non pensiamo solo al diritto all'abitare, c'è un sistema di servizi più complesso, fra cui anche la possibilità di accedere a servizi sportivi a basso costo, cosa che oggi è offerta in qualche modo a suo modo da Milano Sport, ma su cui diversi impianti stiamo notando che vengono chiusi e venduti, diventano privati e diventano accessibili a prezzi ben differenti. Qui in zona esiste una piscina pubblica all'Università Bocconi dove per entrare a fare un nuoto libero si spende 15 euro, a Sant'Abbondio a Milano Sport se ne spendono 7. Vabbè, al di là di questa fuoriuscita dal tema, rispetto alle Olimpiadi ci sembra interessante riuscire comunque a riportare il ragionamento sulla città di Milano rispetto al diritto della città e farlo incominciando a camminare assieme. Il prossimo febbraio saremo davanti a una scadenza che è quella dei 2 anni dall'inizio delle Olimpiadi, che è il febbraio 2026. E il prossimo febbraio, il 10 febbraio, che è un sabato, le Olimpiadi inizieranno il 6 febbraio, che però è un martedì o un mercoledì, e quindi il momento di fare la giornata mi sembrava poco opportuno. Però la proposta è quella che il 10 febbraio vorremmo comunque comporre una giornata critica nei confronti delle Olimpiadi, che riesca a far camminare assieme nelle modalità che verranno definite, che chiaramente adesso non sono definite, non solo la parte del movimento storicamente critica ai grandi eventi, ma anche tutta quella parte della città fatta di comitati inquilini, di abitanti in crisi, che sta subendo gli effetti di questo tipo di politiche. Per cui questo è anche un invito, insomma, un invito per, non dico andare a rifondare reti, a fare coordinamenti, a fare cose che abbiamo fatto in abbondanza, che si aprono e si chiudono quasi settimanalmente, però iniziare a capire che uno dei temi per provare a rovesciare la parte di forza è anche quello di iniziare a trovare un livello di condivisione e a trovarlo sfruttando comunque situazioni, occasioni che sono in grado di connettere le diverse problematiche e anche le diverse aspirazioni, perché c'è anche un aspetto anche più progressivo del tema, che non è solo quello di difesa ma anche di proposta, di riappropriazione, che quindi hanno intenzione di muoversi, di non vivere questo secondo mandato della Giunta Sala in maniera passiva e aspettando di che morte dobbiamo morire, insomma. Io vorrei approfittare un attimo del fatto di aver incontrato qua persone che incontro quasi direi almeno una volta al mese, come quelli di Off Topic, visto che ci frequento lo stesso laboratorio. Allora, io c'è una cosa che non capisco, però non è una questione di dire qua nessuno fa niente, perché non è così. Come io premesso, ci sono tantissimi gruppi e gruppetti che fanno un sacco di cose da anni. Poi in particolare, secondo me, Off Topic, uno dei motivi per cui io ci vengo sempre a lavorare è perché secondo me ha mantenuto sempre lo sguardo lucido, in particolare proprio invece sulle trasformazioni urbane. Però quello che non capisco è che cosa significa dire noi non siamo per la conservazione della città del welfare, la città si deve trasformare, tutto corre, e questo non significa, cioè non significa assolutamente niente nel momento in cui poi uno dice siamo contro le privatizzazioni delle piscine, siamo contro il depotenziamento di tutti i servizi pubblici, siamo contro. Cioè, nel momento in cui uno vede, lotta come voi fate, noi facciamo, contro tutta una serie di cose che vengono sostanzialmente sottratti agli abitanti, ma io manco di cittadini, agli abitanti, perché vengono sottratte in quanto privatizzate? Cioè, che significa? Quello è l'assenza di welfare pubblico. Non è che difendere il welfare pubblico significa avere una concezione arretrata, uno sguardo nostalgico, no, è proprio il contrario. Cioè, tra l'altro, diciamo, gli unici che possono permettersi di non difendere il welfare pubblico sono quelli che non ce l'hanno mai avuto. Cioè, io capisco che negli Stati Uniti dice no, vabbè, contiamo di più sulla comunità. Loro non hanno mai visto il welfare pubblico di fatto, se non in situazioni estremamente parziali. Certo, a New York ci sono 300.000 case popolari, va bene, però cioè, voglio dire, appunto, sono episodi. Chi questa cosa l'ha vista e vede che ogni giorno privatizzano una piscina, privatizzano una piazza come Loreto, privatizzano, ci sottraggono spazio pubblico, danno all'improvviso con una legge sui deor, sottraggono pure i marciapiedi in quantità industriali. Cioè, vuol dire, sì, è una sottrazione continua di cose contro cui una per una, peraltro, Off Topic in genere c'ha sempre uno sguardo molto netto e definito. Allora, perché prendere le distanze da una cosa che è quella? Cioè, nel welfare pubblico è quello, la manutenzione dei parchi, delle strade, delle case popolari in modo che siano agibili, eccetera. È welfare pubblico, non è un'altra cosa, è quella cosa là. E la vogliamo o non la vogliamo? Io penso che la vogliamo. Ora, però, invece, quello che io dico è, non è che non ci siano persone che fanno, cioè c'è un sacco di gente che perde una quantità enorme di tempo proprio per invece combattere queste cose. Però io mi sento continuamente rispondere, ah, a me del glycine non me frega un cazzo, invece è importante, non so, cascina merlata. Ah no, il fatto che la signora prima che ci dicesse, ci comunicasse, non è vero, ci sta un pezzo di città e sta lottando per San Leonardo, cosa che io so benissimo che ci sono stata, però io dire, è testimonianza del fatto che in realtà la maggior parte delle persone manco lo sa che ci stanno le persone che stanno lottando per difendere un bosco a San Leonardo contro una speculazione peraltro fatta dalla curia, eccetera eccetera. Ecco, questa cosa qui, questo fatto che io faccio il mio pezzo di lotta e del resto non mi interessa, non è una cosa, questo è il problema. Cioè, io quando dico il problema della cooptazione è enorme, c'è il problema della comunicazione, per cui è molto difficile obiettivamente che le cose emergano, e quando emergono invece hanno un enorme potere, perché quando è emersa la protesta contro lo stadio, che effettivamente non possiamo dire che fosse partecipata da decine di migliaia di milanesi, purtroppo, come avrebbe dovuto essere, però appena è emersa ha avuto un effetto, perché quando finalmente è riuscita a emergere è riuscita a incrinare in maniera consistente quella che sembrava una certezza. Quando c'è stata la lotta no Expo, tu dici tutti si ricordano, bah, ce lo ricordiamo noi, perché guarda, ti assicuro, un sacco di gente non se lo ricorda proprio, purtroppo. Comunque effettivamente ha avuto una grande vittoria, che è quella di impedire le vie d'acqua e il no canal, questo anche grazie a delle circostanze naturalmente parallele, perché c'è stata quell'inchiesta giudiziaria tremenda, improvvisamente spuntata, quindi no canal più l'inchiesta ha sortito un effetto, finalmente è fallito una cosa importante. Però voglio dire, il punto è il ripudio, diciamo, del quadro generale. Cioè, c'è sempre questa cosa di dire io lotto per il mio pezzo e non riconosco, diciamo, cioè noi abbiamo una mappa della rigenerazione che copre l'intera superficie del comune di Milano e tutti i territori su cui vanno a ricadere questi piani terrificanti, diciamo, tendenzialmente sono rassegnati, indifferenti, diciamo, oppure ognuno lotta per il suo pezzetto o lotta per l'altro, cioè non a quelli di San Siglio gliene frega assai di Lambrate, eccetera, eccetera. Però, ripeto, è una questione legata a quello che dicevi tu prima, Gianluca, perché è proprio legata al fatto che non siamo proprio d'accordo, cioè, sui principi. Cioè, c'è sempre da dire non siamo passatisti, non siamo reazionari, non siamo attaccati alla città del passato. Ma chi è attaccato alla città del passato? Qua i passatisti, i reazionari, sono quelli che stanno ancora a dire che lo sviluppo è questa cosa qua. Questa cosa senza fine, consumo di suolo senza fine, costruzioni, palazzi di lusso senza fine. Ma è un'idea che c'aveva la Thatcher negli anni Ottanta, non è sicuramente un'idea di progresso all'avanguardia, non è avanguardia, è una retroguardia spaventosa, ormai è una cosa che io mi sento di ripetere sempre. Cioè, lo sappiamo benissimo che non porta da nessuna parte questa cosa. Questa trasformazione urbana intesa in questo modo non ha nessun senso di essere, nessuno, cioè è proprio il passato, cioè quello che non vuole vedere neanche, non dico il futuro, ma neanche il presente, ma neanche il passato degli ultimi 30-40 anni, cioè è proprio un tipo di sviluppo cieco e suicida, eppure viene ancora spacciato quello per essere una cosa evolutiva, casomai da cavalcare tatticamente. E invece, diciamo, l'idea di dire no, aspetta, però il welfare pubblico, lo spazio pubblico, i servizi pubblici, non, cioè, teniamoci, lottiamo per tenerci, quello invece noi stessi lo consideriamo una lotta passatista. Questo secondo me è una cosa gravissima. Sì, aggiungo due soli punti brevissimi. La prima roba volevo dirti, ti invito, se ci sono delle assemblee effettivamente sulle Olimpiadi, se vuoi puoi dire se sono attraversabili o se sono periodiche, insomma, per questione di informazione, insomma, in generale. E secondo me si sta un po' lasciando da parte forse una questione fondamentale, che è quella se si lotta contro una controparte che ha le sue armi e che le usa. E sotto questo punto di vista della repressione, per ora non abbiamo ancora parlato. E, non so, quando tu dicevi prima chi si occupava di occupare penso ad esempio al caso del comitato degli abitanti Giambellino, che ancora adesso, insomma, c'è un processo in corso, oltretutto non so neanche a che punto sia, se poi qualcuno ci vuole dare un'elucidazione su questo. Questi compagni, queste compagne sono state accusate di associazione a delinquere per aver occupato delle case, avere provato a mantenere uno spiraglio di chiamiamolo welfare, non so se chiamarlo welfare, ma comunque anche quella situazione che ti permette poi di evitare di pensare al lavoro costantemente tutti i giorni e di fare quella militanza politica, che poi secondo me è quello che manca davvero, che ti permette di dire ok, oggi invece di andare a lavorare vado a trovare il comitato X o Y e tessere quelle fila che poi servono per creare uno spazio comune che è spendibile anche in una determinata lotta. Sulle Olimpiadi hai ragione, cioè sono la prossima Francia. Grande Francia è stato in Francia un'altra situazione, un'altra storia. Perché per mille ragioni non saprei dirti sinceramente. Però ad esempio pensando alla Francia, adesso le Olimpiadi ci sono pure in Francia, no? Quindi queste occasioni devono essere prese guardando al transnazionale. Adesso a Marsiglia, non so, c'è la consegna della fiaccola olimpica, lì stanno facendo un bordello incredibile, chiaramente. E sì, no, si prova, cioè, ma io poi attraverso questo spazio poco altro, però qua comunque la capacità di vedere a livello transnazionale o di provare a tessere un discorso comune, credo che sia un po' un tentativo di tutti, ma è davvero, e tutte, ma è difficile, è complicato, perché appunto a livello tempistico di quello che è la militanza quotidiana, si è tutti presi da mille cose, da mille... insomma... non so. Però chi vuole? In Francia, sì, saranno presi anche loro da mille cose. Meno, perché lì ad esempio c'è una roba che mi viene da dire, l'RSA, che è il reddito di cittadinanza, che comunque il militante medio se lo può raccattare, ci vive, e non è che deve pensare a sbarcare il lunario quotidianamente o a lavorare come qua, in cui invece tutti sono strozzati dal lavoro. Insomma, però lì appunto per evitare che i pezzi siano tolti, i sindacati scendono in piazza a migliaia ogni volta, facendo degli scioperi che sono comuni, facendo manifestazioni comuni. Qua l'ultimo sciopero generale, non so, c'erano due o tre manifestazioni, adesso io purtroppo non sono andato, ma la questione sindacale, la questione del lavoro, dove la lasciamo? Ci sono ancora dei momenti in cui ci si trova tra compagni e compagni a parlare di questa cosa? No, cioè, o meglio, non lo so, io delle pensioni. Ha voglia, certo. No. Qua zero, non succede niente, cioè come se appunto anche lì, perché poi se si va a vedere i sindacati, parlavamo con un compagno qua che comunque c'è una sorta di una sorta di nicchia di persone che vivono di quella cosa lì del sindacato, che comunque devono tenere quella roba lì perché è l'unica cosa che li fa vivere, che è il loro salario, il loro stipendio. E quindi si viene a creare una cosa per cui non c'è movimento, non c'è lotta, c'è appunto una sorta di tentativo di mantenere in piedi qualcosa che purtroppo non porta a una messa a rischio conseguente dell'esistente, di quello che è poi la città, il capitale, insomma. Prego, scusate. Allora, cioè, questo discorso mi fa venire in mente un punto che secondo me, io una delle parole che ho sentito spesso in questi discorsi è quella di abitante. In realtà, pensando a come cambiano le città, come è cambiata Milano, io sono qua da relativamente poco, sono 5 anni, prima vivevo a Genova, e sono tornato a Genova dopo 5 anni, e la cosa mi ha abbastanza sconvolto, ma intuivo che la città sarebbe cambiata in questo per me negativamente, ovviamente è diventata una specie di vetrinetta così piccola, e il punto è questo, cioè l'abitante, chi è l'abitante? Cioè, secondo me oggi le città non sono più vissute da abitanti ma da usanti, cioè la parola abitare a me fa venire in mente, cioè, il vestito, una cosa che io indosso, che mi serve, che diventa mio, cioè, ed è una cosa che mi serve, cioè, che fa sì che non prenda freddo, che magari se fa caldo mi serve un determinato abbigliamento, eccetera. E invece le città adesso sono usate, cioè l'economia e lo sviluppo capitalista porta le persone a diventare questa cosa qua, cioè delle degli individui che usano le cose ma non le abitano. E mi veniva in mente un documentario che avevo visto un po' di tempo fa di La Pietra, che si intitola Abitare, vuol dire sentirsi comunque a casa propria, ed era singolare, cioè era molto divertente, perché lui faceva questi esempi, faceva il parallelo tra la piazza, quello che viene descritto come la piazza, e poi diceva la mia piazza, cioè che cos'è per me la piazza? Per lui la piazza era, non so, il posto sotto casa dove andava, non so, a farsi una passeggiata, una cosa così. Cioè, oggi non c'è più spazio per questo tipo di fantasia delle persone. Quindi, cioè anche le cose che vengono costruite, come sono cambiate le città, cioè sono cambiate con un gusto pessimo, orrido, cioè le cose che vengono proposte sono di qualità scadenti, cioè qua di fianco c'è la NABA, Accademia di Belle Arti, cioè qual è la differenza tra quell'edificio e una scatola di scarpe? È la stessa cosa, la stessa forma, cioè ha dei tagli in mezzo. E poi cioè, non c'è un'altra, cioè, non c'è nessun gusto. Pensate, bisogna immaginare invece come venivano concepite, create, fatte i palazzi, le case, da persone in altre epoche, ma anche 30-40 anni fa. C'era un approccio e un'idea completamente diversa. Quindi, se le persone a un certo punto hanno iniziato ad accettare e a farsi andare bene questo modello, vuol dire che cioè, uno, se non arriva a chiedersi ma questo posto così carico di smog, cioè, fatto solo per usa e getta, fatto solo per consentire che Pinco Pallo possa speculare sugli affitti, su costruire e dire lì dove c'era un bosco facciamo un grattacielo o qualsiasi altra cosa, ci va bene? Cioè, però questa cosa qua dipende anche come veniamo educati noi, cioè perché se a scuola cioè le persone vengono su e diventano cioè le scuole sono diventate degli studentifici, cioè non sono dei posti dove le persone una volta arrivate non so fanno 10-15 anni di scuola, cioè hanno un'autonomia nel cervello che gli fa dire ah ok questo mi piace, questo cioè non ti viene insegnata questa cosa qua. È normale che oggi le città sono sta roba qua, cioè, secondo me non vedo perché non dovrebbero essere così. Voglio fare alcune considerazioni a partire da due o tre questioni discusse e riprese in vari momenti prima. Agostino mi corregge se dico sciocchezze. La prima è questa. Non mi ritrovo tanto nella periodizzazione città del welfare, città contemporanea, non perché non ci sia stata una città del welfare, ma perché questa non è la città dell'inizio di questa storia, è già una risposta a quello che era successo prima. Di recente è morto Alberto Magnaghi. Magnaghi descrive molto bene prima la città fabbrica e poi quel processo di socializzazione delle lotte che dopo aver inceppato il meccanismo della produzione capitalistica in fabbrica deborda sull'intero territorio urbano e mette in crisi e fa saltare la città come processo di circolazione e riproduzione del capitale. Questo è il primus da cui secondo me conviene partire per un ragionamento. La città del welfare è una risposta parziale a questo processo autonomo di rottura dei funzionamenti, dei meccanismi di funzionamento della città del capitale. Durerà pochi anni, in buona parte poi si trasformerà in una gestione decentrata a livello regionale della ristrutturazione delle fabbriche, però sostanzialmente il welfare, quel po' di welfare che c'è stato in Italia si è dato dopo le lotte operaie e sociali che hanno messo in crisi l'intero funzionamento della macchina del capitale. Prima di welfare ce n'era veramente poco, addirittura Adesso non so se qualcuno ha mai contato il numero degli abitanti di case popolari che hanno ottenuto la casa non a seguito di progetti di sviluppo dell'edilizia popolare, ma come sanatoria di occupazioni. Tantissimi. In Milano la questione della casa popolare è stata posta dalle lotte dei senza casa, da quello che poi diventerà il progetto Prendiamoci e Riprendiamoci la città. Ecco, quando questa forza sociale viene a cadere nella sconfitta del movimento, giustamente dal punto di vista dell'amministratore dice: ma a me chi me lo fa fare di spendere dei soldi per mettere una pezza a un problema che non c'è più? E quindi sono poi andati avanti i processi di rivalorizzazione della città. Ecco, io inviterei a riflettere su questi passaggi, perché sono i passaggi storici politici fondamentali. Ripeto, poi se ho detto una sciocchezza tu mi correggi, però io la vedo così. E la stessa deindustrializzazione, pur rispondendo a necessità di valorizzazione dei suoli, io non riesco a vederla disgiunta dalla necessità di togliersi dalle palle sti operai così concentrati che quando si svegliavano la mattina facevano tutto meno che andare a lavorare, soprattutto se giovane. Questa è la prima cosa su cui inviterei a riflettere, perché ha poi un portato sull'altra discussione che è stata presa e ripresa, cioè lo stato delle lotte, che può essere vista questa questione in vari modi. Da una parte c'è un effetto di frammentazione, di difficoltà a stare dietro ai grandi progetti, alla centralità che ha assunto il divenire della città per i gruppi finanziari. E a questo si può cercare di porre rimedio in una cooperazione di sforzi, di intelligenza, quella funzione dell'università che è venuta a mancare può essere ripresa soggettivamente da quel po' di studenti, docenti disposti e interessati a fornire le idee, le conoscenze, le competenze. Per questo è un piano che in qualche modo si può pensare di attrezzare prendendo atto della difficoltà e cercando in modi più condivisi e sociali per rafforzarsi. C'è però un altro piano, che è quello che è stato posto all'inizio e che poi non è stato, secondo me, a sufficienza ripreso, e cioè tutta quella debolezza che viene dall'ammorbidimento, dalla cooptazione dentro il meccanismo della comunicazione di istanze di lotta sociale. Ecco, questo un po' perché al primo problema si può cercare di, insomma, ci si mette insieme e si migliora. Questo secondo è un problema già più impegnativo, perché significa parlare di come i soggetti individuali e collettivi si pongono rispetto proprio al capitale e alla sua capacità di cattura. Dentro quel meccanismo che prima vede, secondo me, la repressione e poi vede l'offerta di partecipare. Ecco, questo secondo piano merita di essere approfondito, perché è quello propriamente più moderno e se si vuole anche più milanese di tutta la faccenda. Non perché sia solo Milano a essere investita in questo processo, ma perché effettivamente Milano ha fatto da battistrada, almeno in una certa parte, cioè quella parte di valorizzazione delle chiacchiere, della fuffa, fino a costruirci sopra un vero e proprio discorso ben descritto nel libro, che hai voglia a pretendere che si presti attenzione ai dati quando la logica di base è venuta a mancare in tutto il discorso degli operatori sia pubblici che istituzionali sulla città. E questa questione è, secondo me, importante anche riguardo un bilancio dell'Expo e una previsione in vista delle Olimpiadi. Allora, giustamente sono stati rilevati i parziali successi conseguiti sulla questione delle vie d'acqua e altro, però c'è un problema grosso che non possiamo non tenere in conto nel bilancio della campagna No Expo, che è il primo maggio, perché il primo maggio per Milano, per come la vedo io, ha rappresentato in un po' in scala ridotta quello che fu Genova 2001 sul piano nazionale, cioè come un momento di dissociazione molto, molto grave rispetto alla maniera in cui si sta in piazza. Senza questa fiducia, che poi è il, se tu chiedi ma cosa c'è di diverso tra la Francia e l'Italia, tantissime cose. Una importante è che in Francia, se tu decidi di porti attivamente in piazza, non è che sono lì proprio tutti a scassarti la minchia come invece in Italia. Hamburgo G20, che cos'è? È una grande coralità di pratiche molto diverse tra di loro, ma a un certo punto diventano una cinquantina di barricate, si combatte e nessuno scassa i maroni su questo, perché questo sta dentro la composizione del movimento. Se questo problema non viene una volta per tutte affrontato e risolto, sarà difficile uscire dalla separazione, perché non è soltanto una separazione che viene dalla debolezza, dalla frammentazione sul territorio, da condizioni di vita diverse, è una frammentazione innanzitutto politica, è una mancanza di fiducia in quelli che un tempo erano i tuoi compagni, sentivi come i tuoi vicini anche se tu e loro facevate cose diverse, ma poi quando ti colpivano si era tutti insieme. Questo è un problema fortemente milanese, anche esso non è solo su Milano, ma è fortemente milanese, e bisogna trovare la maniera di affrontarlo, altrimenti non si riuscirà mai a uscire da quel pantano che l'attività di movimento è diventata bisogna anche dire più o meno da quando, perché non è sempre stato così. L'ultima cosa che voglio dire, ecco, tra i piccoli strumenti per tirarsi su un po' d'animo, oltre a una maggiore integrazione dei saperi, innanzitutto uno sforzo di comunicare, di far sapere le cose fuori del gioco di specchi della comunicazione. Cioè dobbiamo riuscire a trovare la maniera di far sapere le cose importanti nella maniera che questo in qualche modo resti tra di noi, anche se non deve essere una, e quella figura che i compagni francesi una volta definirono come zone di opacità offensiva, cioè parlare, comunicare, ma non per farsi ascoltare dal potere, piuttosto per dire qualche cosa che il potere fatica a capire, ma che invece i tuoi amici e compagni capiscono bene. L'altra cosa, perché non pensare in positivo tutta la faccenda, cioè la comune rivoluzionaria meneghina, quali sono i suoi 10 punti fondamentali una volta che si è sbaraccato sta massa di rimbambiti che abbiamo di fronte? Può essere una cosa su cui anche solo come gioco mentale potrebbe valere la pena di mettersi. Perché questa cosa dell'opacità offensiva, anche se io non conosco, allora ti aspetta. L'opacità offensiva è bellissima. Questa cosa dell'opacità offensiva è fondamentale. Una cosa che dico sempre tra l'altro in genere non dico mai, non sapevo che si chiamasse, non conoscevo il termine, però invece cito sempre lavorare in Fiat, quando si racconta che appunto gli operai inventavano degli strumenti per migliorare il proprio lavoro nella catena di montaggio, ma si guardavano bene dal mostrarli giustamente ai sorveglianti, perché altrimenti li avrebbero usati contro di loro per farli produrre di più. E questo è quello che io dico sempre riguardo al, diciamo, al rapporto che c'è in questo momento tra il capitale, diciamo così, e proprio le energie sociali. Cioè, il capitalismo in questo momento, si sa, questo, sono banalità che non sto a spiegare a voi, il capitalismo non, trova sempre nuovi campi in cui da sfruttare, da cui estrarre valore, eccetera, eccetera. Il campo principale da cui estrae valore in questo momento non è solo il palazzo e la rendita, fondamentalmente la rendita immobiliare, che però, ripeto, di per sé noi dovremmo avere almeno come campo comune banale il fatto che la rendita immobiliare va contrastata in maniera radicale. Cioè, quindi, per esempio, nei movimenti non dovremmo avere oscillazioni, io penso, cioè, ogni volta mi stupisco sul fatto che Airbnb va repressa almeno come a New York, oppure che gli oneri di urbanizzazione vanno alzati in maniera terribile, che gentrificazione è comunque male, cioè non va bene. Cioè, ecco, ci sono delle cose che sembrano scontate, non lo sono. Però il problema è che questi capitali giganteschi, descritti benissimo da Off Topic, meglio che da me, in realtà però sono, evidentemente hanno bisogno di noi, hanno molto più bisogno di noi di quanto non ne avesse bisogno Ligresti. Cioè, Ligresti faceva le sue speculazioni immobiliari, estraeva rendita dai territori senza prestare nessuna attenzione alle proteste che pure c'erano, alla critica che pure c'era, c'era sui quotidiani principali, nazionali, eccetera, eccetera. Non era totalmente invulnerabile a tutto questo perché lui aveva i suoi sistemi e nessuno evidentemente lo poteva contrastare. Tutti lo chiamavano mafioso, è stato in galera, eccetera, eccetera. Lui non parlava, ma comunque, voglio dire, al di là di questo, la reputazione non aveva nessun tipo di influenza sui suoi affari. Ligresti non aveva influenza. Almeno dalla crisi del 2008 in poi, la finanza ha problemi con questa cosa della reputazione, ha dei problemi enormi evidentemente. E quindi si deve assolutamente, ma per gli affari, non per convincere a noi, si deve presentare con un'ottima immagine, un'immagine di benefattore, un'immagine di filantropia. Quindi, ripeto, noi abbiamo un potere che non noi critici, noi conflittuali, abbiamo un potere che prima non avevamo, cioè quello di boicottare questa reputazione. Tant'è vero che, per esempio, questo in America ha iniziato a essere anche una tecnica usata da alcuni movimenti, per esempio, di lavoratori. Avevo letto recentemente un articolo interessantissimo sui lavoratori dell'agricoltura intensiva in certi stati tremendi del Sud America, che si sono coalizzati per, diciamo, proprio per, diciamo, come dare una, diciamo, dare una buona o cattiva reputazione a seconda di come vengono trattati i lavoratori, e ricattano le grandi multinazionali, perché dice: se tu ti servi di quelle aziende e tratta male i lavoratori, noi facciamo uscire questa cosa e la tua reputazione, cioè la tua ESG, la tua CSR, la tua comportamento corretto, politically correct, il tuo greenwashing, il tuo social washing, il tuo pinkwash va malissimo. E questa cosa ha effetto, perché effettivamente la Nestlé, eccetera, eccetera, non si rivolgono, pare, a quelle là che vengono etichettate come dal basso, come delle pessime aziende. Allora, però, questo che c'entra col discorso dell'opacità? C'entra nel senso che, siccome hanno bisogno di fare CSR, di fare ESG, cioè di testimoniare, di dire: noi abbiamo fatto, noi facciamo del bene, noi facciamo dei progetti straordinari per le persone, non è che noi buttiamo solo dei palazzoni di cemento come faceva Ligresti. Loro hanno bisogno di fare tutti questi progetti con cui si dice a Napoli, assellano la gallera, su, nella città, e facciamo la panificazione del Corvetto, e facciamo il cinema nel cortile là, e facciamo il giardinetto condiviso, eccetera eccetera, non sto a rifare tutti gli spazi ibridi sociali, eccetera eccetera. E le persone più preziose per loro siamo noi, cioè chi, cioè, anzi, quanto più è maledetto il posto, diciamo, quanto più ha una pessima reputazione il posto su cui possono intervenire, tanto più vale per loro. Quindi se possono fare progetti a Napoli, nei quartieri spagnoli, a Scampia, vale 100 volte di più che se lo fanno in un quartiere semiborghese. Qua se fanno un progetto al Corvetto, al quadrilatero di San Siro o in un posto, diciamo ad alto tasso, non so, di immigrazione, cioè, oppure dove sono stati rilevati disagi sociali più eclatanti, lì vale di più il loro intervento. E loro vogliono, cioè le persone più sono preziose per loro sono proprio gli attivisti che magari fanno delle cose, gli attivisti, i lavoratori sociali, i lavoratori culturali che lavorano con quelle persone, con quei che hanno una capacità in qualche maniera di parlare per il quartiere, va là, cioè, perché tanto è chiaro che non possono avere a che fare direttamente, è difficile per questi enti avere a che fare direttamente. Catella non parla direttamente con l'abitante di San Siro, del quadrilatero. Allora loro hanno bisogno proprio di quelle persone, quelle conoscenze, quelle reti di solidarietà sociale che sono state sempre politicizzate, storicamente sempre, insomma, politicizzati in modo diverso, per carità, cioè ci sono state mille cose diverse, però più loro hanno proprio bisogno di sussumere quella parte là, è quella che gli è più utile in assoluto. Quindi se, diciamo, incontrano resistenza, se evitiamo di portargli come un regalo tutto il nostro lavoro sociale, culturale, solidale, di organizzazione appunto orizzontale, eccetera eccetera, li stiamo danneggiando. Se poi addirittura li andiamo a boicottare dicendo che il murales di quartiere che hanno fatto fa schifo, non piace a nessuno e nessuno ha partecipato veramente per fare quel murales di me, li danneggiamo oggettivamente. Quando Franca Caffa, inserita da Ortica Noodles nel murales dei 200 milanesi prodi buoni che hanno fatto cose bene, ha rifiutato, ha detto mi dovete cancellare da questo murales perché questo è un murales che viene usato per fare propaganda al comune e per valorizzare il quartiere di Lambrate, di Ortica Lambrate, a uso di tutti quegli speculatori, Dils e le altre società che ci stanno, diciamo, non solo costruendo, ma stanno alzando il valore di quel quartiere, delle case di quei quartieri, del 50, del 60%. Loro hanno messo in atto una serie di minacce pazzesche contro io che avevo scritto un articolo, un'altra giornalista che aveva scritto un articolo, contro la stessa Franca Caffa, no, perché non avrebbero potuto. Poi hanno iniziato a negare che loro l'avevano inserita, non è vero, invece avevamo le prove, grazie a Dio, che loro l'avevano inserita e poi hanno dovuto cancellare, l'avevano inserita senza permesso. Però voglio dire, il senso è che loro, una cosa così, già una persona di 96 anni, che sì, famosa per le lotte per la casa, molti anni fa, e che continua a essere un personaggio pubblico, però diciamo che nella comunicazione mainstream degli ultimi 20 anni non possiamo dire che è una protagonista, povera Franca Caffa. Ecco, all'epoca Eli Gressi non avrebbe proprio avuto nessun rilievo, se ne sarebbero assolutamente fregati. Oggi sono impazziti, sono letteralmente impazziti. Gli stessi Ortica Noodles sono impazziti perché qualcuno a un certo punto ha scritto su uno dei loro murales davanti al CPR, no CPR, e questa cosa loro hanno reagito dicendo sappiamo chi sei, ti veniamo a cercare. Cioè, voglio dire, queste cose qui sono rilevanti. Quindi, appunto, evitare di regalargli, di partecipare, di in qualche modo di collaborare con loro è un'azione politica già importantissima di per sé. L'altra cosa che volevo dire rispetto sempre al tuo intervento, alla prima parte del tuo intervento, certo, il welfare è il prodotto delle lotte, però evidentemente chi lottava per le fabbriche, lottava anche perché lo voleva, le volevano le case popolari, le volevano i parchi, li volevano le piscine pubbliche, cioè sono cose che volevano. Oggi sembra non essere chiaro che cosa si vuole, lo vogliamo o non le vogliamo? Vogliamo delle metropolitane che servono i quartieri abitati, oppure ci sta bene la metropolitana che serve, che collega Linate con San Babila per i turisti, miliardi pubblici che si indebitano, che indebitano il comune e invece non sono destinati ai cittadini? Cioè, queste sono le cose, voglio dire, all'epoca è chiaro, cioè, senza le lotte non è che il welfare è stato elargito per benevolenza, anche perché, ma in realtà è ovvio, è puro frutto delle lotte. Per che cosa stiamo lottando? Che cos'è il diritto alla città oggi se non è il welfare? A me sembra strano. Allora, no, scusa. No, io volevo dire una cosa sulla frammentazione del conflitto, perché è vero, in realtà i territori sono isolati gli uni dagli altri, soprattutto quando sono in movimento per questioni locali. Non so se c'entra direttamente con quello che si sta dicendo, però diciamo che la gentrificazione si nutre di cooptazione delle associazioni, e la gentrificazione lavora localmente, e per ogni luogo che viene gentrificato ne viene sminuito un altro, perché sì, perché i valori hanno bisogno di addensarsi, e se devi togliere il traffico da una zona la butterai da un'altra parte. Adesso io parlo per dire, perché vengo da un comitato di quartiere Adriano, che è la periferia della periferia, che sta subendo la gentrificazione di via Padova, perché via Padova sta prendendo valore, anche con grande coinvolgimento popolare, perché ci sono tante associazioni che sono coinvolte, che fanno tante cose, che si sentono nobili in qualche modo, ma anche giustamente in qualche modo, però l'amministrazione ne fa un uso, diciamo, esperto, e questo serve a far sì che poi la periferia della periferia ne paga le conseguenze. Adesso il nostro è un caso talmente piccolo che è proprio il simbolo della localizzazione, della frammentazione del conflitto. Noi, per dire, siamo coinvolti da un'opera infrastrutturale pesante che andrà a liberare via Padova da buona parte del traffico che arriva dalla tangenziale, che verrà riversata dentro quartiere Adriano, cosa che ai tempi era la Gronda Nord e che adesso è una versione un po' più piccola della Gronda Nord, su cui probabilmente non c'è nemmeno da fare un'opposizione fino alla morte. Però quello che offende è che in tutti gli incontri la comunicazione viene sempre manipolata mettendo le associazioni una contro l'altra proprio localmente, e alla fine è una questione proprio terra terra di soldi, nel senso che le zone che si decide che non sono interessanti non devono costare, per cui fai un'infrastruttura pesante e l'affianchi a una linea di, cioè la lasci, all'inizio la vendi dicendo toglieremo degli elettrodotti e metteremo la bretella della tangenziale al posto degli elettrodotti, alla fine non ci sono soldi, lasciamo tutto, tram, strada, elettrodotti, perché in realtà non vale la pena di spendere soldi in quel posto lì. Dopodiché in via Padova si possono spendere moltissimi soldi in cordoli di beola bianca che vengono dalle Dolomiti. Sono questioni stupidissime, però è una politica abbastanza sottile di gestione del consenso, che quando ci sei dentro è molto pesante, nel senso che poi ti trovi a fare duelli su Facebook con l'associazione dei vicini, cioè è una cosa che non ha senso. E non siamo mai abbastanza esperti, cioè nel senso che poi ti trovi appunto le belle associazioni artistiche che dicono che è bello vivere, andare in bicicletta in via Padova, che sono hanno ragione, sono bravi, sono giovani e dicono che bello andare in bicicletta, e alla fine ti trovi a fare l'associazione delle vecchiette incazzate dei vecchi quartieri, delle vecchie zone non interessanti, e poi le vecchiette incazzate si trovano in pizzeria a dire vabbè, ma che lasciamo stare, chi se ne frega. Oppure no, chiediamo le assemblee e poi alle assemblee le dinamiche non sono mai, cioè sono sempre un po' strane. Ti trovi davanti il bellissimo consigliere del PD che seda la vecchietta incazzata. Cioè, la comunicazione è anche un'arte, e probabilmente le associazioni diventano più o meno esperte a seconda di quanto sono cooptate, e probabilmente la periferia della periferia non è abile. Adesso io lo dico in modo un po' scoraggiato, però è stata presa di mira da Parco, ha fatto le sue scelte, e ovviamente ci sono le zone a margine con via Padova che effettivamente miglioreranno. Quello che non si capisce è perché le opere infrastrutturali, per esempio, devono costare così niente. Cioè se devi fare un grosso rilevato che passa accanto ai condomini, dici che è giusto così. Se devi fare una bretella della tangenziale senza eliminare l'elettrodotto, in modo tale che alla fine non c'è più spazio per niente, dici che va bene così. Via Adriano è presa di mira a chiazze, cioè certe zone vengono qualificate, certe zone si decide che quelle sono i corridoi infrastrutturali. E ovviamente le associazioni si dividono per territorio alla fine. È un po' amaro come ragionamento, ma alla fine sono delle difese molto frammentate dei territori. Niente, non volevo smontare l'assemblea, ma aspetta un attimo. No, non so perché mi è venuto in mente. Ce l'ho in testa da quando abbiamo fatto il convegno dedicato a lui, ma ho in mente Antonio Caronia. Mi è venuto in mente anche ascoltando un po' questi interventi, che lui diceva occupare l'immaginario, no? In quanto occupare è una pratica e l'immaginario invece è quello spazio che con le parole e pensieri si fa mondo. Ecco, era un po' questo l'idea di Caronia. Mi sembra che il libro di Lucia in qualche modo è riuscito a occupare questo immaginario, anche perché era impensabile che facesse così tanto parlare un libro, quando io mi ricordo quando lei lo faceva, non te lo immaginavi nemmeno tu. No, è stato nel momento, giustamente, diceva Agostino, giusto. E quindi in qualche maniera abbiamo a che fare con un mi viene in mente anche l'esperienza di Picco, no? Quando uno si droga troppo, c'è cioè un'esperienza di Picco, che, per cui più di là non può andare. Ecco, mi sembra che il Capitale in questo momento sia proprio un'esperienza di Picco. E finalmente la Milano meneghina rivoluzionaria, come diceva Robertino prima, possa, o in qualche modo nell'immaginario, è riuscita a rialzare la testa. Un altro esempio è il libro che abbiamo fatto noi, Spazio Comune di Stavrides, che è un libro scritto nel 2016, che è stato pubblicato da noi nel 2021 e continua a essere richiesto in tutta Italia, qui a Milano addirittura 5-6 volte, di venire qui. L'hanno addirittura preso quelli della Fabbrica del Vapore, proprio il nemico pubblico numero uno, l'ha chiamato per tentare di fare quel progetto di cooptazione tipico del Capitale. Ecco, in questa situazione però va bene anche fare leva sulla complicità e quindi tentare di introdurre degli elementi anche un po' provocatori dentro a tutti coloro che potrebbero essere nostri alleati, amici nelle lotte, e questo forse dovremmo fare un libro proprio che si chiama Social Washing, e questo darebbe un'altra. Però la cosa più interessante secondo me che è stata detta rispetto alla questione della frammentazione, mi sembra che siano stati, è stato Gianluca di Off Topic, che è comunque non a caso Off Topic da anni che ci lavora su questo, dal 2011 ci diceva, ha trovato forse anche una scadenza, un luogo, un obiettivo. No, Olimpiadi è un obiettivo. Allora lui ha parlato di, ha dato addirittura la data, il 10 di febbraio, per ricordarci. Ecco, cosa facciamo quel 10 di febbraio? Proviamo a pensarlo, innanzitutto perché non so quante presentazioni Lucia ha fatto, e siamo di già con, a livello diciamo editoriale, in un'assemblea permanente, che in qualche maniera lo è stata, almeno io ho seguito 3 o 4, una più bella dell'altra nella sua diversità, ma non è forse il caso di trovare veramente anche un luogo, uno spazio comune per fare commoning su questa questione? Perché non occupiamo qualcosa di reale, magari senza neanche troppo andare a occupare qualcosa di completamente illegale, che poi ci scontriamo con la repressione? Mi viene in mente la vicino proprio a Piano Terra, quello spazio che è dedicato alla resistenza, come si chiama? Casa della Memoria, che è usata pochissimo. Entriamo dentro e facciamo un'assemblea permanente con questi argomenti che stiamo trattando, che il libro di Lucia ha portato avanti, ma anche il libro di Stavrides, per assurdo. E magari in quel luogo tentiamo di creare una mappa della città, magari anche tridimensionale, che c'è un amico mio che ci sta lavorando su questo, e diventa quella grande mappa al centro dell'occupazione della Casa della Memoria, facciamo già i voli pindarici, visto che ormai siamo su. Però una mappa dove ognuno porta le proprie lotte e si vede lì direttamente, sì. E poi una, cioè questo è il mio pallino da un po', lo sapete, qualcuno lo sa, non so, però è il mio pallino. È la mensa popolare. La mensa popolare è necessario farla. Ci sono ormai la foodification, molto più che la gentrification. Sono stato a Napoli l'altro giorno, non ci volevo credere. È diventata non lo so. Allora facciamo le cucine popolari noi anche dentro una situazione del genere. Ah, no, volevo dire l'ultima cosa. Il libro. Tra l'altro, quando Agostino diceva l'università si è staccata, mentre invece sia il libro e soprattutto le tematiche affrontate dal libro di Lucia hanno portato, almeno nel mio piccolo, nella mia piccola casa editrice, hanno portato molti docenti e professori e soprattutto tanti studenti a chiedere, a capire e tentare di trovare delle soluzioni comuni. Io volevo dire, fare un aneddoto, però poi un po' si è allargato. Beh, principalmente io dico che bisogna rompere i coglioni nelle scuole e nelle università, perché ci sono tanti docenti che danno dei piani per quelli che sono i progetti degli studenti a riqualificare sti cazzi di quartieri. Io vivo nel quartiere Nolo, non so se lo conoscete. Cioè, vi racconto questo aneddoto. Vivo in Via dei Transiti, dove c'è un luogo che dal 1978 si prodiga e lotta ancora adesso, e prima, come dicevamo nella storia in maniera più vis-à-vis, no? Cioè, c'era più gente. No, in questo quartiere volevano fare un parcheggio. Praticamente questo parcheggio, grazie a questi compagni militanti di questo cazzo di luogo che si chiama Casa Occupata di Via dei Transiti, siamo riusciti a non farglielo fare, perché volevano fare 5 piani, no, con queste nuove tecnologie, e tiravano i tiranti ai pilastri dei palazzi che ci stavano. E quindi che cosa succede? Come è successo a fianco al Politecnico, dove il Politecnico insieme alla Cariplo fa parte alla fondazione del Comune di Milano, sono quelli che hanno devastato Milano dagli anni 90 in poi, e c'è il progetto Bovisa 2000 che lo può testimoniare questo fatto qua, cosa hanno fatto in quel cazzo di quartiere, l'hanno devastato. Voglio tornare su, e quindi su questo discorso qua di non fare il progetto, ci sono venuti dietro fascisti e leghisti, dietro fascisti e leghisti. Mo, per quanto riguarda Nolo, no, adesso quella piazza è popolata di tutti senza dimora, di vari migranti, di vari mondi diversi, e quindi c'è sta rottura di coglioni di questi grandi sinistri, di sinistra si reputano loro, hanno rivalutizzato il quartiere, e che va da Nolo, va via Le Padova, no, c'è dentro anche Legambiente, però sta di fatto che per non fare in modo che la sera, nella tarda serata, questi senza dimora siano là a bere, a chiacchierare, a supportarsi fra di loro, dove andare a dormire in questi luoghi abbandonati, sgomberate case chiuse e abbandonate, fabbriche abbandonate, palazzi interi abbandonati, e quindi hanno la loro piazza in termini di uno spazio come questo, che può essere al di fuori di come ci stavano una volta i parchi, dove ci stava tanta gente che ognuno chiamava la propria piazza, come qualcuno ha accennato all'inizio. Cioè, quelli di Nolo fanno un dibattito su Facebook, non so chi prima nominava Facebook, e praticamente si fanno delle proposte di mettere i dissuasori attorno alle sbarre che hanno recintato quella piazza, e tutto meccanismo di far girare soldi, quindi occupazione del suolo, devastazione del suolo, sempre grazie ai vari elettorati di destra, di sinistra, di centro, della Lega, no, che fanno lavorare quelli che giostreggono l'edile, quindi la mafia. E la mafia non nasce adesso con l'Expo, la mafia rispetto alla questione del suolo c'è da una vita, e soprattutto a Milano. Milano lo detiene l''Ndrangheta, che è un'organizzazione mafiosa oggi, no? Tutto il territorio tiene, e quindi anche tutti i vari negozietti dei vari migranti che dormono nei vari negozietti, o i bar dei cinesi stesso, o le cuciture dei cinesi, o i parrucchieri dei cinesi, se tutto questo, e questo non viene detto. No, tornando a Nolo, no, rispetto al discorso dei dissuasori, ragazzi miei, i dissuasori attorno alle sbarre, dove questi non si possono sedere, non si possono bere la loro birra, non possono chiacchierare, non possono farsi il loro spinello, non si possono bere. E quindi nasce un dibattito fra di loro. E uno, in mezzo al loro dibattito a Facebook, gli dice: ma allora, ragazzi miei, allora era meglio non farli venire. E tutti questi, che sono di sinistra, si chiamano, sei un razzista, gli gridano. Allora io penso che per combattere tutto questo mondo di merda che ci opprime, no, bisogna ragionare su quello che è stato detto prima, il costruire iniziative e il lanciare, pigliare spirito di autodeterminazione, parlare anche a livello individuale su quella cazza di 90 o nei propri bar di quartiere, a camminare insieme. E là, come si dice da anni, vedendo e facendo, no? Quindi toccando con mano si vanno a fare delle cose, e quindi si può arrivare a mettere dei paletti in termini di popolazione, non di piccole organizzazioni o di piccole associazioni, che queste piccole associazioni, organizzazioni, spazi sociali e quant'altro, bisogna che tirino fuori le palle, come si dice, e mettersi in gioco sul campo, l'esserci, è quello che secondo me può portare a un qualcosa di, in maniera sempre orizzontale, di un mondo altro, di una solidarietà reale e non solo a bla bla bla bla bla. Ma sì, io provo un po' a raccogliere qualche riflessione che mi è venuta dagli interventi di stasera. Io devo dire, ho anche una sensazione, non vorrei eccedere così in determinismo, no? Ma cioè, in realtà il panorama che offre Milano oggi è in un certo senso ancora più complicato, no? Di come lo abbiamo mostrato finora noi stasera, perché io vedo all'opera anche delle forze, cioè c'è una composizione di forze, no? Sul terreno della città. E alcune di queste forze le abbiamo individuate: valorizzazione immobiliare, gentrification, turistificazione, no? Prima è stato descritto i tre livelli, no? Attraverso cui opera questo processo di espropriazione, espulsione, eccetera, eccetera. Io ho la sensazione però che ci sia anche un'altra componente che sfugge un po' anche ai parametri, diciamo, di un capitalismo anche di tipo predatorio, di rapina, che sfrutta e vuole mettere a valore gli spazi. Lucia a tratti l'accenna questa cosa nel libro, questo autocannibalismo, potremmo dire, no? Che porta poi all'estrazione di valore attraverso l'intensificazione della rendita. Però c'è anche un'altra componente che io vedo molto profilarsi su un piano più internazionale. Cioè, lo diceva proprio Manfredi Catello in un'intervista al Sole 24 Ore 3-4 anni fa. Diceva che ci sono delle forze che oggi agiscono sul terreno della città e soprattutto delle cosiddette città globali, in cui bene o male Milano rientra, che non hanno neanche più un interesse immediato alla valorizzazione, ma che investono per monetizzare enormi profitti che hanno ricavato, per esempio, negli anni pandemici, sul terreno della città, ma giusto per mettere giù il denaro sul terreno della città, cristallizzare sul terreno della città. Perché? Perché il panorama internazionale è inquieto, perché l'ordine geopolitico è in discussione, perché i focolai di guerra aumentano, perché gli investimenti in borsa non danno più le certezze che davano in passato. Allora diventa interessante anche acquisire edifici a Milano piuttosto che a Londra, che a Parigi, perché comunque quello è denaro messo giù sul terreno della città, come se fossero delle fish che io metto giù su un terreno di gioco, no? Ma, e che posso valorizzare poi di qua 20 anni, di qua 30 anni. Per cui c'è anche una sorta di ipergentrificazione che non ha nemmeno degli interessi materiali immediati. Mi spiego meglio, una cosa che ho già detto altre volte, ma mi ha molto colpito vedere come, per esempio, questi grandi capitali immobiliari acquisiscono a Londra, acquisiscono a Santiago del Cile, acquisiscono a Parigi, ma a volte gli edifici acquisiti rimangono vuoti, non vengono messi a valore, perché l'importante è mettere giù del denaro prima o poi recuperabile sul terreno della città. E questo è un fenomeno anche in parte nuovo, no? Che sfugge anche alle coordinate di quello che abbiamo descritto prima, e che a Milano avviene, ma non avviene per esempio a Roma, No, a Roma non c'è questa cosa qui. A Roma è diverso. A Roma è diverso perché non ci sono le acquisizioni massicce, no? Non ci sono le acquisizioni massicce. È come se Milano fosse comunque individuata come un luogo interessante da questo punto di vista, perché dà delle certezze nel periodo medio, se non nel periodo lungo, mentre altrove queste certezze non ci sono, no? E... Va bene, io non l'ho letto ancora. E l'impressione è che anche questa sia una forza che diventa una componente nel gioco, no? Quando Catella dice appunto c'è stato un capitalismo troppo selvaggio, io ci leggo anche in qualche modo il riconoscimento che ci sono anche delle potenze che sfuggono al suo stesso controllo, che sono dei giocatori che giocano il gioco di Milano oggi. E questo è un altro fattore di cui secondo me occorre tenere conto, perché è una delle componenti che formano poi il quadro complessivo. E tocco un altro punto che è venuto fuori, che è molto interessante. Sì, la cooptazione, il potere morbido, queste cose che ci insegnavano già Deleuze, no? Le società di controllo, il passaggio, le società del coinvolgimento. Sì, forse no, nel senso che, per esempio, in quello che veniva descritto prima dalla signora del quartiere Adriano, no? In realtà quel tipo di amministrazione che fa il gioco delle tre carte, carta vince e carta perde, qua perde il tuo quartiere e vince l'altro, questo pezzo di quartiere vince, questo pezzo di quartiere perde. Beh, ma questa però è una pratica amministrativa e tipica delle metropoli terzomondiali. Su una scala più ampia. Quello che avviene nelle grandi città, non so, Buenos Aires, in cui l'amministrazione non può gestire le trasformazioni della metropoli nel loro complesso, non può dare soldi a tutti, no? Non è in grado di farlo. E allora gioca ogni volta questa partita: attendo questo, prossima tornata elettorale, se mi voterai ti darò qualcosa in più che ho tolto a quegli altri che non mi hanno votato. Cioè diventa una specie di gioco di combinazioni a somma zero, in cui però c'è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde, no? E questo certo è reso più facile dalla frammentazione. Però è anche vero che diventa, come dire, una briscola che il potere concentrato nell'amministrazione centralizzata della città usa in maniera spregiudicata per tenere insieme quello che altrimenti non potrebbe tenere insieme. Anche se poi c'è un altro problema che viene fuori, che è quello del localismo, no? Di tanto partecipazionismo che poi viene, come dire, inficiato proprio dalla sua dimensione di prospettiva limitata, che non riesce mai a diventare lo sguardo sulla città, ma è sempre confinato nella dimensione della partecipazione del pezzo di quartiere, del quartiere magari contrapponibile agli interessi dell'altro quartiere immediatamente limitrofo. Per cui anche qui c'è un insieme di componenti che non è facilissima da affrontare e da valutare. Per non dire poi di un altro componente di cui parlava prima lui, scusami, non mi ricordo il nome tuo. Ah, sei Marco, vabbè, non t'avevo riconosciuto, troppi anni Marco, ci siamo visti non so quando l'ultima volta con Massimiliano Guareschi, forse Sheikh, non so, tanto che non lo vedo Max, E è vero quello che diceva poi anche Marco, no? Che c'è anche questa cosa, questo blocco legato dal blocco dell'immaginario, dall'eternizzazione del presente, potremmo dire, no? In cui c'è questo presente continuamente reiterato, in cui sembra che non si possa fare niente, no? In cui è l'immaginario della trasformazione ed è mandato a quelli che sanno, siedono e stanno sui loro scranni e da qualche parte noi non ci possiamo fare niente, no? E allora lì è riattivare questi meccanismi di possibilità di immaginare la città diversa, che è quello che è fondamentale per creare, no, come dire, la cosa interessante è no Olimpiadi, è un punto, come no, come no, come no, che innesca un punto di innesco, un punto esatto, di attivazione, un punto di attivazione. Proprio perché il quadro è molto complesso e queste forze diverse che oggi fanno il bello e il cattivo tempo in città, ma che non sono tutte la stessa cosa, potrebbe anche essere il momento in cui si riesce a metterle le une contro le altre, si riesce a innescare dei meccanismi di loro conflitto interno, no? E questo a me sembra una possibilità da non sottovalutare, proprio perché allora sì che può tornare anche questo enorme rimosso, perché poi diciamolo, sì, è vero quello che diceva Roby, quel che è stato, cioè, però anche un portato della memoria in città come Milano, no? Che non è poi da sottovalutare, perché è vero che apparentemente è tutto presentizzato, è tutto bloccato, ma da qualche parte ci sono ancora questi granelli di memoria, no? Questi grumi di memoria raggrumati di quello che è stato, di un'altra maniera di vivere la città, di pensarla, no? Che sono lì e che potrebbero riattivarsi nel momento in cui e ci sono le condizioni perché divengano fertili. Mario, vai. Sono Mario di Off Topic. Aggiungo due cose, che sono due come dire, stimoli che raccolti dai tanti interventi interessanti, molto che hanno coperto una superficie enorme della città e di cosa vuol dire la metropoli in questo momento. La prima cosa è che qualcuno ha parlato del piano, cioè noi viviamo una realtà metropolitana in cui il piano ha perso completamente la sua funzione. Quando una cosa arriva sul piano PGT o da qualche altra parte di quel tipo lì, l'hanno già decisa, cioè non è più lo spazio della composizione democratica della trasformazione, quello è lo spazio della cristallizzazione, come si diceva, no? In questo, come dire, il Politecnico lo terrei, il Politecnico e Bocconi li terrei ben presente, perché la dinamica in questo momento è proprio diversa da quella che classicamente abbiamo studiato, nel senso che quello che vediamo in questa fase, e parlo di fase nel senso di classico di fase, è il privato fa una proposta, che è una proposta che fa esattamente il suo interesse, completamente. Il Politecnico gli dà la patente di fattibilità e di agibilità, lo dico anche sapendo che mi sono laureato lì purtroppo e tanta gente qui ci lavora, e quindi questo fa parte del sapere dove siamo inseriti in questa fase, appunto. Dopodiché il pubblico acquisisce la certificazione e a questo punto si può fare. Non esistono più... Cioè, ok, questa è una cosa importante perché altrimenti pensiamo di poter intervenire ancora su alcune dinamiche che invece sono già completamente definite, decise, cristallizzate, fissate, fossilizzate. Non, lo spazio va preso prima, e questo per dire un'altra cosa importante. Quando noi parliamo di Olimpiadi, parliamo del fatto che identifichiamo un obiettivo che è fra 2 anni, che è quello che accadrà, su cui sappiamo che non possiamo in questo momento opporci alle Olimpiadi tout court. Però ci portiamo un obiettivo, che è quello del 10 febbraio del 24, l'anno prossimo, in cui diciamo lì cominciamo, cioè diamo forza e diamo dimensione concreta a un passaggio che abbiamo fatto partire l'anno scorso e che, su cui vorremmo, come dire, creare uno spazio di condivisione, di attacco. Ma perché cosa ci diciamo? Ci diciamo non potremmo far fallire le Olimpiadi, ma magari una o qualche opera inutile possiamo farla saltare. Cioè dobbiamo riuscire a immaginare il fatto che non è tutto scontato. Quello che diceva Filo Pat sull'immaginazione è fondamentale, cioè nel senso non siamo prigionieri dello slogan della Thatcher, there is no c'è un'alternativa, immaginiamola, mettiamola in tutti gli spazi e in questo, come dire, abbiamo anche da un lato la fortuna di avere grandi analisi sviluppate in questo periodo, il libro di Lucia sicuramente uno, ma anche altre cose, cioè i libri di Agenzia X sono altre, cioè me ne sono tante. Ci manca la sintesi, ok? Cioè stiamo perdendo la capacità di lavorare nella dimensione progettuale, dove il progetto, che etimologicamente è qualcosa che butto avanti, ti dice cosa posso immaginare prima e cosa poi posso concretamente andare a fare, a lottare, a pensare. Perché quando ci diciamo, ripeto, no Olimpiadi, non è un no Olimpiadi, è diciamo vogliamo far saltare due o tre opere che sappiamo essere palesemente inutili, palesemente dannose, e dentro lì cerchiamo di portare tutta la coalizione, la consapevolezza, la forza, consapevoli ovviamente del fatto che i rapporti di forza sono un casino in questo momento, cioè i rapporti di forza sono drammaticamente sbilanciati. Sappiamo che la capacità di raccontare di questo capitale residuale ma fortissimo è spaventosa. Fuori dall'Italia non è la Milano che viene conosciuta, ma è l'immagine di Milano che viene conosciuta. Fuori dall'Italia e fuori da Milano anche. Cioè da Roma, no? Milano non è la Milano che hanno visto, ma è la Milano che è stata raccontata. Ora, questa cosa secondo me dobbiamo, secondo Off Topic, dobbiamo perseguirla con forza, con pazienza, lavorando appunto immaginando quali sono le alternative possibili e poi dandosi degli obiettivi concreti che piano piano, direi per forza, magari evitando di essere messi tutti dentro, insomma. Però vorrei anche dire che le Olimpiadi sono un obiettivo, sono simboliche, si vedono, eccetera, eccetera, e forse riusciamo a fare saltare qualche altra cosa, che ne so, la cosa di Santa Giulia, boh. Però io direi sarebbe stato opportuno chiaramente fare la lotta a suo tempo alla candidatura, no? Cioè ci sono state città che hanno fatto saltare la candidatura alle Olimpiadi, quello era il momento. Cioè quando lei giustamente dice qua stanno cambiando il PGT e adesso ancora peggiora, riescono perfino a alzare le cubature che erano già altissime, eccetera, eccetera, e poi ci sono un sacco di altri, miliardi di altri problemi, cioè si continua a destrutturare le previsioni del piano, eccetera, eccetera. Sarebbe bene in questo momento, per esempio, fare la lotta, cioè fare quella cosa faticosissima di capire, aspetta, che stanno cambiando, dove vogliono andare, cioè questo è il momento di battersi contro il nuovo PGT e fargli un mazzo tanto invece di accettare quando già sarà fatto. Adesso Cascina Merlata, per carità, però per esempio adesso ci hanno annunciato che spendono 14 milioni per fare una stazione del passante per Cascina Merlata. Allora gli abitanti di appunto Cascina Monlue e Forlanini non hanno avuto la fermata perché non erano degni sulla, mentre invece per fare fruttare meglio il valore di Cascina Merlata comune, regione, città metropolitana spendono 14 milioni soldi nostri per fargli una bella fermata, perché altrimenti effettivamente è un inferno arrivare. Allora il punto è, per carità, le Olimpiadi, obiettivo simbolico, ormai se ne se ne accorgono tutti, però nel caos comunicativo che tenterà di riprodurre quello dell'Expo, ovviamente forse ci riuscirà, perché a quel punto avranno soldi pesanti per fare la comunicazione, quanto bucheremo, ripeto, se riuscirà a far fallire anche una sola altra cosa, io sono sempre per valorizzare al massimo i fallimenti, quindi fallito in questi mesi, fallita la pista da Bob, di Cortina, fallito Fico a Bologna, quello proprio un grandissimo trionfo, San Siro, Traballa, eccetera, eccetera, queste cose ci cioè, dobbiamo tenere come grandissimo, però ci stanno mettendo sul piatto oggi, non ancora approvato, una quantità enorme di altre cose, magari cerchiamo di arrivarci prima, questo, però ripeto, di nuovo, c'è cioè il problema che è difficile, io me lo ricordo quando ci fu la candidatura, la gente non era neanche in grado di percepire quale fosse il problema. E ovviamente sì, perché stavamo là a parlare dei Novax maledetti e altre vaccate incredibili, che... però voglio dire, adesso per carità, se riusciamo a fargli un'altra, felicissima, però l'Olimpiade, cioè nel frattempo diciamo tutto quello scempio, il villaggio olimpico eccetera eccetera, è tutto quello che sta tra lo scalo e Corvetto è già andato, insomma, per cui io direi anche pensare un po' più in anticipo serve. Allora, sul piano siamo d'accordo, quello che hai detto è condivisibile sul PGT. Allora, io volevo dire una cosa, quando tu sostenevi che occorresse colpirli sulla loro identità, no? Allora, identità nel senso immagine, no? Buona immagine, che sono ambientalisti, dediti alla fratellanza universale, eccetera, eccetera. Scusami, io sto dicendo, lei prima diceva è molto importante rovinare la reputazione di queste grandi, dei grossi gruppi finanziari. Va bene, Lucia, d'accordo, grazie. D'accordo. Io vorrei tanto degli hacker. Io sì che li vorrei. Voglio di avere dei dati che non riesco a avere. No, allora volevo dire questo. Un vanto del comune, no, nel PGT e un vanto di questi palazzinari, no, è quello di fare delle case ambientalmente corrette a più, a super, ad oro e via dicendo. Allora, anche per quanto riguarda le nuove costruzioni per il nuovo quartiere di cui si parlava in questo momento, secondo me è una richiesta da fare, visto che non si può fare a posteriori, facciamola subito, è che questi edifici tutti gli anni ci devono dare i consumi reali che confermano la coerenza o finalmente fanno apparire la bugia sul comportamento ambientale di ogni singolo edificio. È una cosa che la città di New York ha fatto quando ha capito, ovviamente sotto pressione, che è stata truffata e che addirittura gli edifici degli anni 60 consumavano nei fatti meno di un edificio in classe altissima. Allora, questa cosa secondo me gliela si deve rinfacciare, perché non è possibile che abbiano l'onore, i vantaggi economici eccetera eccetera, prendendo in giro tutti quanti sulla correttezza ambientale. Cioè questo nella... Flavio, vuoi intervenire col microfono? Così ti ascoltano tutti e sarai anche registrato negli annali. Sicuro? Negli annali offuscati degli archivi di Stalle. Esatto, negli archivi di Stalle. Di che cosa parlavamo che non ricordo più? No, perché avevo un'altra cosa da dire a lui. Dimmi. No, non intendevo una cosa così, quindi cambio discorso, così faccio, me la cavo. Volevo invece intervenire in parte su quello che ha detto lui, ma in parte quello che è stato detto qua. E cioè, spostando il discorso al futuro, cosa, negli edifici che noi adesso abbiamo orrore che costruiscano qua e là, che occupino spazi vitali, che distruggano logistiche a noi comuni, le più auspicabili, se non dire le più economiche da un punto di vista non certamente finanziario, ospiteranno persone. E quindi ospiteranno persone. E che cazzo ne facciamo di quegli zombie lì? Li abbiamo zombizzati. Non conteranno un cazzo. Staranno nel loro appartamentucolo di 75 metri quadri col terrazzo a guardare la televisione, andranno a lavorare alle 7:15. Cioè, abbiamo un'immagine così distopica. Mi interrogavo su questo, banalmente, perché non abbiamo mai preso in considerazione che costruire ha due scopi: uno di riprodurre i mezzi di produzione e l'altro di produrre l'altro mezzo di produzione fondamentale, cioè la classe operaia. Non c'è un cazzo da fare. Se quando c'erano i borghesi illuminati, i borghesi che inventarono le case di fabbrica, le case Pirelli, se mi ricordo anche qua c'erano, e cazzo, sembrava il massimo dell'eguaglianza raggiunta in un paese moderno. È durato, quanto è durato? La classe operaia è sparita, dal punto di vista concettuale è sparita. Resta però un soggetto sociale invisibile, e insisterei su questa invisibilità, che è i lavoratori dei nuovi settori industriali, diciamo così, cioè 500 programmatori stanno in quell'edificio là 8 ore al giorno, poi tornano a casa loro. Dove cazzo trovano casa? L'azienda certamente, se dipende dalle gerarchie interne, ti troverà una casa, secondo, se no sono cazzi tuoi. E dunque il futuro abitativo è un futuro di una, mi viene da dire, di una classe disunita, ma di una molteplicità che non riesce più a riconoscere, o con fatica dovrà, se mai si porrà il problema, riconoscere delle unità laddove sembra solo disparità e come si dice, frammentazione, molecolarizzazione. È vero anche che dentro questi movimenti molecolari sociali potrebbero ingenerarsi nuove forme di socialità, a noi sconosciute. Non solo vengo a dormire sul tuo divano, ma cioè, delle cose, dico stupidaggini, in realtà non hanno a che fare col quotidiano, ma anche no, insomma. Tutto qua. Flavio ha posto in modo interrogativo quello che sarà l'oggetto di uno dei prossimi incontri, cioè cosa significa lavorare a Milano. Sì, gli abbiamo dato qualcosina per le sue spesucce. Va bene, tutti al bar. Ciao. Grazie. Quando sarà il prossimo incontro? Anticipa. Allora, il prossimo incontro non sappiamo ancora quando sarà, ma è mio. Grazie. Sarà, non solo siete chiaramente tutti e tutti invitate a partecipare, speriamo prima di Natale, manteniamo questo filo, non lo perdiamo, anche se avete cose da comunicare, tipo altri incontri, o perché gli spunti sono tanti, buoni, e il lavoro da fare è tanto.